皆さんこんにちは。私は光弘横田、パローラでジョルノの先生をしています。残念ながら次郎にも LINE にお渡しします。チャオトゥッティ、ソーノ光弘横田、イル先生デラパローラデルジョルノ、プルトロッポデボパッサーレラリネア、次郎にも。 Amiche e amici del ciclismo, del Giro d'Italia e della fine, soprattutto della fine, perché tutto ha una fine il Giro d'Italia, ha una fine la vita, ha una fine anche questo podcast che è giunto alla sua ultima puntata, l'ultima puntata del 2024, quantomeno, di Gironimo, il podcast di Alvento dedicato al Giro d'Italia con le voci di Bidon e il supporto irrinunciabile di Shimano. Lo avete sentito anche in apertura, la voce che ha contraddistinto Shimano in questo Giro d'Italia, ovvero il Sensei, nostro nume tutelare non solo mio, ma di tutto il podcast, ma soprattutto della persona che ho di fianco a me, l'unica, perché siamo rimasti in due come le ore che probabilmente durerà questa puntata, due come le centinaia di contributi esterni che dovrò inserire in fase di montaggio, quindi dai, andiamo di slancio. Pelacci, buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, siamo a Milano, a casa mia, benvenuto. Quindi si può dire che la cosa più bella di Milano è guardare la conferenza stampa a Roma. Sì, sì, si può dire sicuramente, in effetti comunque non ci vai troppo lontano. Della conferenza stampa ne parleremo più avanti, abbiamo detto che andiamo di slancio sulla tappa di oggi, sillabe d'amore, le abbiamo chiamate fin qui, vediamo se con un sottofondo mentale di violini e altri archi, vediamo cosa mi fai sentire riguardo alla tappa di oggi, tappa che ricordiamo andava da Roma a Roma. Dopo le foto e i saluti di rito, attorno alla metà della passerella romana si avvantaggia una fuga di quattro corridori, tra cui Baudin, Costiu, Honoré e l'infante del paese, Martin Marcellusi. Diverse squadre dei velocisti tengono, con successo, la corsa chiusa. Un primo colpo di scena ai meno 9, quando ha un problema meccanico Jonathan Milan. Rientra ai meno 4, ma ai meno 2 Pogacar è il primo uomo a tirare il gruppo. Ecco che sulla sinistra sbuca il treno della Lidl Trek con Milan, ma chi anticipa la volata, leggendo perfettamente il finale sui San Pietrini romani, è il Mago Razzo. Team Merlier vince la sua terza tappa al Giro d'Italia. Ma Mago Razzo o Razzo Mago? Questa è un'ottima domanda. Ci teniamo per il giro dell'anno prossimo questa domanda. Aniel Koski è Angelo Gatto o Gatto Angelo? No, Aniel Koski è l'angelo di Varsavia. Si è piazzato in top 10 quest'oggi, guarda, ti do la classifica, non c'è Leonardo, mi incarico io di leggere le classifiche minori, come la classifica di tappa. Vince Tim Merlier in 2 ore 51 minuti e 50 secondi, secondo Jonathan Milan, terzo Caden Groves, quarto Fernando Gaviria, quinto Tim Van Dekke, sesto l'angelo di Varsavia Stanislav Aniel Koski, e poi settimo Alberto Dainese, ottavo Giovanni Lonardi, nono Caleb Ewan, decimo Donovan Grondin, quindicesimo il velocista più forte del mondo Zanoncello, solo 74esimo Tadej Pogacar. Delusione Pogacar, anche quest'oggi. Sì, basta Pogacar. Pogacar che però ha vinto un'altra classifica, quella della la generale. Ah. La classifica del Giro d'Italia, la classifica finale, CF. Vince il Giro d'Italia in 79 ore, 14 minuti e 03 secondi. Probabilmente più di quelle che tu hai mai passato in bicicletta, Michele Pelacci. Non so se vogliamo fare questo conteggio. Credo di no, ma non lo faremo. Secondo Dani Martinez a 9 minuti e 56 secondi. Ai noi sono mancati quei 4 secondi. Terzo Geraint Thomas a 10 e 24. Completano la top 10 O'Connor, Tiberi, Arensman, Rubio, un grandissimo Jan Hirt all'ottavo posto, Bardet e Michael Storer, che oggi ha sudato alcune maglie più degli altri per portare al termine il suo Giro d'Italia nei primi 10. Visto che siamo all'ultima puntata, velocissima panoramica, concedimela sulle altre classifiche, che ci siamo anche, come si dice in termini tecnici, cacati poco dall'inizio del Giro fino ad oggi. Maglia ciclamino a Milan su Groves e Merlier. Milan che tra l'altro ha fatto cadere lo spumante nel festeggiare la sua maglia ciclamino. La blu degli scalatori a Poggi su Pellizzari e Steinhauser, quarto Nairo Quintana. La bianca a Tiberi su Arensman e Zana. Ti dico anche che la classifica dei traguardi volanti e il premio fuga sono andati entrambi a Pietro Bon. E la classifica squadre alla Je Désert, che abbiamo visto festeggiare invece con una doccia di spumante da festa delle medie. Ma soprattutto c'è una classifica per cui noi siamo venuti a seguire il Giro d'Italia, siamo anche tornati a casa dal Giro d'Italia, è l'Intergiro. Ah. E visto che oggi facciamo due ore, ve lo leggo per intero la classifica dell'Intergiro. Dominata da Filippo Fiorelli con 59 punti, secondo Julien Alaphilippe a 48 punti, terzo la superstar di questo giro, Andrea Pietrobon a 44, quarto Groves, quinto Mirko Paperino Maestri. Ti dico che 67esimi con un punto, quindi a pari merito la Intermaglia Internera, sarà vestita, cioè è vestita da Arensman, Novak, Foss, Smith, Kilich e Consonni. Fantastico. Io non ho risolto un enigma, Filippo, devo dirti che enigma sulle classifiche, poi andiamo oltre velocemente, sì. Perché hai citato la doppietta di Pogacar, la doppietta soprattutto di Pietrobon, sì. Te ne cito un'altra. Vai pure. Bert van der Berghe, sì. È arrivato con punti negativi sia alla classifica della maglia azzurra che in quella della maglia ciclamino. Incredibile, doppio negativo. Doppio negativo, beh, allora è negativo e internegativo. Ah no, la maglia azzurra non è più l'Intergiro, mannaggia. Esatto. mi porta sempre in confusione. Eh sì, non so se è un record nella storia di questo Giro d'Italia. Corsa svoltasi in Italia, come si faceva, si poteva facilmente intuire dal nome di questa corsa. Corsa che verrà ricordata, diciamo, nella storia del ciclismo. Sì, per le prestazioni dei suoi dominatori, di Pietrobon, di Pogacar, di quello che vuoi, ma soprattutto perché è la corsa che ci ha fatto capire definitivamente che il ciclismo può essere spiegato molto semplicemente coi tarocchi. In questa atmosfera agrodolce come le cipolline, mi sento un po' giromantica e brindo alla Fontana dello Zodiaco con l'estrazione dell'ultimo tarocco, che alla fine, sotto il podio, non poteva che essere l'arcano del giudizio. Come direbbe Samuele Bersani, togli la ragione, lasciami sognare in pace. Questo è l'arcano che ufficializza una comunicazione importante. Idee, successi e avanzamenti di carriera. È una carta benedetta da fortuna e genialità. Quale altra carta poteva raccontare il trionfo assoluto di questa ultima tappa di giro? La tenerezza, la freschezza con cui Tadej Pogacar ha vinto il Giro d'Italia numero 107. Non è il giudizio universale che potrebbero creare i festeggiamenti di meccanici, team, DS, che ho visto tutti piuttosto in grinta, ma condividere davvero con grande gioia questa vittoria, ma è ispirazione e lucidità con cui la squadra intera della UAE ha vinto questo giro incredibile. Se guardiamo un attimo proprio la carta, rappresenta un angelo che vola in cielo e comunica con tre personaggi terrestri. L'angelo, ahimè, non è quello di Varsavia in questo caso, ma è colui che ha corso un giro a parte, mentre i tre personaggi sono le tre maglie: la azzurra, sempre portata da Tadej, la bianca di Tiberi e la ciclamino di Milan. Questo arcano ci racconta la chiusura di un ciclo e la rinascita, è la chiusura del giro. Purtroppo vi lascio come al solito con una punta di amarezza, perché la carta capovolta ha causato, ahimè, un bel imprevisto, un blocco, ed è il blocco della catena di Milan e, ahinoi, il fallimento della sua ultima tappa. Talvolta addirittura ci accenna la giromanzia con comportamenti sconsiderati. Amici miei, è stato bello riflettere con voi su ciò che era già successo, perché i tarocchi dell'ovvio ci hanno tenuto compagnia, e io vi saluto. Marta Bacigalupo, ma quanto ci manchi? Io e Causo siamo in pena. In pena. Non dormiamo? Io da quando è partita Marta non ho più chiuso occhio. Sai che l'abbiamo salutata con un arrivederci, Kautz, e sulla bici personalizzata. Arvedege, com'è che era in friulano? Non potrò mai ricordare, ma sulla bici personalizzata, color ciclamino, che aveva oggi Jonathan Milan, sul telaio dietro si era scritto arrivederci. Una bici coincidenze? Questo lo lasciamo a inquietudine rosa. Una bici inquietudine ciclamino in questo caso. Gli ha portato, sfortuna, non lo so, perché ha dovuto cambiarla ai meno 9. Forse intendeva arrivederci alla vittoria di tappa. Sicuramente ha speso molto e non ha avuto... non credo l'abbia pagata questa bici, gliel'avrà data lo sponsor. Molto possibile. Questa era una citazione di Pogacar, tra l'altro. Ma vogliamo parlare di volata o continuiamo? No, parliamo di volata, parliamo di volata. Se dobbiamo riempirle queste due ore, se poi vogliamo superarle. Non saremo scarsi come Pogacar, che non è riuscito a dare 10 minuti al secondo. Noi le superiamo le due ore per questa puntata. Sì, è chiaro che la, come dire, la, l'incidente meccanico, il contrattempo, come lo vogliamo chiamare, di Jonathan Milan è stato un elemento decisivo della volata di oggi. Non so se è l'unico, però visto che i nostri ascoltatori lo apprezzano, non so bene perché, io ho passato ancora un'ultima volta questa volata dal macellaio, l'ho squartata un po' e ne ho tirato fuori qualche particolare. E parto esattamente da quello, cioè non tanto dall'incidente meccanico di Milan, che sono cose che capitano, poi la sfiga ci mette spesso il suo, ma dal fatto che un fattore decisivo, secondo me, di questa volata è che quando Milan è rientrato, che era intorno ai meno 4, facendosi delle belle scie automobilistiche, ma dopo gli incidenti, all'ultimo giorno poi c'era del gran volemo se bene, ecco, la squadra non gli ha voluto così bene, nel senso che si sono fatti un gran mazzo, l'hanno aiutato tantissimo, però l'hanno riportato subito davanti. E nel farlo sono andati decisamente troppo forte per uno che era appena rientrato, scie quanto vuoi, ma facendo un bel fuorigiri bello lungo, aveva probabilmente bisogno di tirare il fiato un attimo. Tanto che c'è un momento dell'inquadratura, se non sbaglio ai meno 3,3, in cui si vede chiaramente che Milan fa l'elastico, che c'è un buco tra l'ultimo uomo, credo fosse con Sonny, non me lo sono segnato, e Jonathan Milan prende vento di nuovo gratuitamente in quel momento lì. E quindi di fatto lui ha fatto un fuorigiri per rientrare, un fuorigiri per stare dietro ai suoi compagni di squadra e poi il fuorigiri vero e proprio della volata. Ecco, questa cosa credo che abbia contato, perché poi vabbè, Merlier è stato geniale, ha lanciato la volata prima ancora dell'ultima curva. Io credo che qui abbia influito, Merlier ha parlato del ciclocross anche in conferenza stampa, ma secondo me ha influito la sua capacità di fare le volate in quelle semiclassiche del Belgio in cui lui eccelle, che hanno degli arrivi di questo tipo. Io pensavo allo Scheldepress, qualcuno citava la Nokere Curse, comunque gare che Merlier è abituato a vincere e che hanno questo tipo di arrivi, anche queste curve all'ultimo, per di più pure su una strada leggermente dissestata come può essere il Dolce Pavé di Roma. E lui ha fatto questo primo scatto prima ancora della curva. Io penso l'abbia fatto distinto, ma questo sarebbe stato interessante scoprirlo. Relativamente agile, così che dopo il primo scatto è riuscito a rilanciare di nuovo. E quello è il momento, secondo me, in cui Milan ha perso la volata, perché non è riuscito a reagire immediatamente per seguirlo. Probabilmente aveva il fiatone che gli andava sopra le orecchie. Ci ha riprovato dopo facendo anche uno zigzag, che insomma forse anche rivedibile, ma oggi ci si voleva bene, come detto. Mentre Merlier ha preso subito la transenna con ampio vantaggio, e quindi Milan ci ha provato a riprendere Merlier, però non avendolo preso in quel primo istante, perché forse non si aspettava un lancio così da lontano, o forse, molto più banalmente, non ne aveva più. Lì si è giocato la vittoria di tappa, e io penso che sia stato, c'è sicuramente tutta la sfiga che ci vogliamo e tutto quanto, però ecco, io credo che sia stato veramente un colpo di genio di Tim Merlier oggi. Geniale a lanciarla lunga, geniale a lanciarla quasi prima della curva o comunque prima dell'uscita dalla curva, perché sono convinto che sapesse che Milan era tutta da un po' e quindi non sarebbe stato in grado, forse sarebbe stato in grado di tenergli la ruota, non lo so, ma non sarebbe stato in grado di richiudere un buco che infatti non ha richiuso. È geniale anche lanciarla da dietro, perché se ci facciamo caso, Merlier parte dalla settima ottava posizione, non parte molto avanti, non aveva più compagni di squadra che lo stavano aiutando. Perché partendo da dietro chiaramente non dai quello che è il cosiddetto autobus, non permetti all'altro di salirti a ruota e di accompagnarlo fino all'arrivo, e si sa d'altronde che a Roma prendere l'autobus è sempre un'avventura imprevedibile. Bellissimo riassunto di tappa, Filippo. C'è un pavé diverso rispetto a quello del Belgio, ha detto Merlier in conferenza stampa. Aveva il 56 però. Aveva il 56, che è una corona particolarmente grande, perché sapeva che, a differenza per esempio della Nokere Corse, una corsa che... Nokere Corse è una corsa, vabbè. Corse vuol dire corsa, curse, per cui è corretto. Okay. Il dittongo O, E, E, U. Sì, ma adesso stiamo sul giapponese. Ok. Che vince a 3 anni consecutivi, quella tira leggermente all'insù, questa leggermente all'ingiù, anticipando però la volata, ha effettivamente fatto una magia, il mago razzo. Il mago razzo, sì, magico Merlier, un gran bel gesto tecnico con cui concludere il Giro d'Italia, per cui siamo così, siamo contenti anche stavolta di avere una bella conclusione. Come l'anno scorso il Giro ci aveva regalato quest'ultima giornata, noi, come l'anno scorso, abbiamo deciso di non andare a Roma per una scelta logistica, ma anche perché siamo convinti dell'inopportunità di questa mossa di spostare l'intera carovana del Giro d'Italia da un luogo remoto sulle Alpi fino alla capitale. Ce la siamo guardata in televisione, non ci andremo ancora se la rifaranno questa mossa, nonostante quest'anno quantomeno c'è stata l'attenzione di creare un treno, ne riparleremo dopo, non un treno dei velocisti ma un treno speciale che portava quantomeno la stampa nella notte. Però ecco, guardandocela in televisione, quantomeno ci siamo goduti una bella volata, e che così, che mette fine al Giro d'Italia. Sai chi l'ha vinto questo giro? Penso quello sloveno, sai, classe del 98, nota. Sì. Io perché oggi ero al benzinaio, cioè io no, perché non, però tu stavi facendo il pieno mentre attraversavamo la pianura padana in lungo e in largo. Io mi sono allontanato un po' per fare la pipì e ho sentito le persone che chiacchieravano e dicevano Tadej Pogačar. Ah, che come uno dei suoi rivali quest'anno ha lavorato, no? Geraint Thomas l'anno scorso lo fece per Cavendish, quest'anno Pogačar ha lavorato per Molano nei chilometri finali, Molano però ha fatto 19esimo, per cui poca fortuna. Sì, non una bella volata degli uomini della UAE, Pogačar è sembrato quasi che, ed è nel suo personaggio, abbia fatto anche un po' lo show per fare lo show. E ci poteva stare, dai, perché no? E Pogačar che vince il Giro d'Italia all'esordio come prima di lui. Koblet, Hinault, Coppi e Luigi Ganna che vinse il primo Giro d'Italia, per cui era all'esordio per forza, perché erano all'esordio tutti quanti. Solo questi? Non lo so se solo questi, ma questi sicuramente. Incredibile, abbiamo altro su Pogačar. Perché l'ho presa da un tweet, come fai tu con le statistiche, per cui non mi assumo responsabilità. Io posso citarti una cosa, che noi guardavamo la conferenza stampa da qua e quindi è stato anche divertente, no? Quando facevano le domande ai giornalisti riconoscevamo la voce e quindi, sì, ah, ma questo è... Ho fatto cose più divertenti nella mia vita, comunque sì, abbiamo ingannato il tempo anche con questa cosa. Però quel signore di nome Piccione gli ha fatto una bella domanda, gli ha chiesto se si sente di essere cresciuto durante questo Giro d'Italia e Pogačar dice, non lo so, sono molto stanco, difficile questa domanda, e si mette a ridere. Dice che sì, forse l'ha fatto un mezzo passo avanti in questo giro, ma vediamo, lascio che sedimenti un po' dentro di me questo Giro d'Italia e poi vedremo. Sì, è arrivato in conferenza stampa oggi che sembrava essere tornato il Pogačar della prima settimana. Piccolo inciso, conferenza stampa vista in streaming, per cui giudichiamolo o non giudichiamolo, però sono impressioni così, arrivatemi a me. Piccolo inciso, io credo che ieri, e ci siamo dimenticati di menzionarlo, Pogačar abbia anche spiegato molto chiaramente chi era quel Pogačar della prima settimana, durato fino a poco dopo la tappa di Napoli, se non sbaglio, e abbiamo visto anche noi Pogačar cambiare nei giorni successivi. Noi pensavamo che fosse anche figlio un po' di, non voglio dire accordi, però di chiacchierate fatte anche con l'organizzazione, tanto che il giorno in cui forse si è visto cambiare da così a così è il giorno in cui non si è presentato in conferenza stampa, gli hanno dato il permesso di saltarne una e dal giorno dopo era una persona diversa. Però lui ha detto esplicitamente ieri di aver avuto a che fare con malattie o forse allergie che l'hanno colpito fino alle tappe successive al riposo di Napoli, per cui così mi spiego anche un po' che sicuramente c'è stato questo, ci sono stati dei dialoghi con le alte sfere, ma forse c'è stato anche un ritorno alla buona salute fisica a migliorare anche il suo morale, come è normale che sia. Oggi mi ha ricordato il primo Pogačar di questo giro, semplicemente perché, insomma, ci aveva voglia di andarsene. L'ha detto, la prima domanda ha risposto, cosa farai, era voglio andare a cena e festeggiare con la mia squadra. Non ha detto mollatemi, ma poco ci manca. E insomma, ci sta che voglia festeggiare, e comunque si vede che è felicissimo. Ha detto a un certo punto anche, sarò felicissimo quando tutto questo sarà finito. Perché si riferiva alla conferenza stampa, ma domani ha degli eventi commerciali, ne ha ancora un po', povero ragazzo, però felice e contento anche, lasciato aperta la porta sulla possibilità di tornare al Giro d'Italia in futuro. Ci piacerebbe averlo già l'anno prossimo, vedremo. Chi ci piacerebbe rincontrare l'anno prossimo, ma anche prima, verosimilmente, è Marta Bacigalupo e il suo Pogačario. Ma ormai cosa volete sapere di più su Taddei? Ormai in piena trasparenza vi ho condiviso tutte le mie fonti, rinunciato ad ogni non disclosure agreement e sapete tutto di lui. Però, per salutarci con il Pogacciario, visto che questo è un momento di celebrazione, le feste si fanno, si festeggiano in famiglia, e avevamo parlato tempo fa di suo padre, e indaghiamo un'altra parte della famiglia. E come lo facciamo? Raccontandovi un episodio che ho tenuto da parte come bonus track per questo finale, ovvero una gaffe meravigliosa fatta dal dottor Kautz. In realtà eravamo, mi pare, all'arrivo di Desenzano, non avevamo ancora visto molti tifosi sloveni, e lui a caccia di scoop mi ha detto: attenzione, Andiamo a intervistare, che ho visto dei tifosi sloveni sotto il palco. Siamo andati e ascoltate chi erano. My name is Janko. Janko? Yeah. Where are you from? I came from Slovenia. From Slovenia, but Komenda or other city? Slovenska Bistrica. Slovenska? Bistrica. And why do you support Poggi? Because Poggi have my daughter. What? Poggi have my daughter for girlfriend. Ah, you are Urska's father? Yes. Wow! Welcome to the Giro! Thank you. Eh sì, era il signor Zigart, era il signor Janko, venuto direttamente da Slovenska Bistrica per supportare il suo genero, è il genero, sì, direi di sì, ed è stato un momento molto carino, perché poi lui, un po' appunto una conversazione un po' faticosa, ma ci ha raccontato, vabbè, ovviamente di come lui sia qui per fosse venuto con Urska a supportare Taddei, e che si ricordava appunto la prima volta che lo avevano visto, quindi forse circa 4 anni fa, quando era andato per la prima volta ospite a casa della famiglia di Urska con la figlia, e che all'epoca non aveva ancora tutti questi risultati. Sapevano che era un talento, ma per loro era Taddei, non era appunto ancora un grande incredibile corridore. E poi ci ha detto appunto che quando festeggiano, beh sì, insomma, ci sono un sacco di motivi per festeggiare, ma di solito magari vanno a bere qualcosa o a cena, però in generale si festeggia sempre guardando le corse, che sia in televisione o dal vivo. Al che gli abbiamo chiesto anche se lui lo sentiva durante le corse, se sono in contatto, e ha detto sì, ha fatto molto ridere, mi scrive su Twitter, su WhatsApp, oppure magari mi chiama per chiedermi dove sia Urska. E quindi niente, ragazzi, anche tutti i papà sono uguali, tutte le famiglie sono abbastanza uguali, anche quelle dei campioni. Saluti dal Pogacciario. Allora, chiamarla gaff è un po' forte, cara la mia Marta Bacigalupo, perché non è che io conosco il padre di Urska Zigart. Vedo una persona in un'area di accreditati, molto tifosa, molto vestita, e l'avvicino, come avvicino io tutte le persone, fino a che la polizia non me lo impedirà, continuerò a farlo. E vabbè, non è stata una gaffa, dai, ci siamo anche tirati fuori una bella chiacchierata, breve, rapida, ma un bello scambio. E salutiamo quindi il signor Zigart, se così si chiama, non mi ricordo già più, nonostante ce l'abbia detto. Di Pogacar direi che abbiamo parlato fin troppo in questo Giro d'Italia. Allora, io introdurrei un nuovo premio per questo Giro d'Italia, che fa un po' il paio con la strategia che abbiamo usato quando ci siamo trovati a fare pronostici, ed è l'MVNP, che sta per? Ti piace come sigla? Notevole, è un acronimo. Ce l'ho in italiano, ce l'ho. Non, se vuoi puoi tu dirmelo in inglese, puoi dirmelo in inglese. È il molto valevole non Pogacar. perfetta, beh, e utile, bene, anche bene, come utile. Sì, potrebbe diventare un altro dei premi che dà il Giro d'Italia sul podio a fine corsa. No, di Pogacar abbiamo parlato tanto, ci sono tanti altri nomi che meritano di essere applauditi alla fine di questo Giro d'Italia, il giusto tributo, come si dice in questi casi. Io però tornerei un attimo a Pogacar, senza andare a Pogacar ma andandogli intorno, perché abbiamo parlato tantissimo di Taddei Pogacar, ma ecco, se io dovessi assegnare l'MVNP, lo assegnerei anche alla sua UAE, che è una squadra che È come sempre se ci fossero delle perplessità su questa squadra. Non so come, non viene mai descritta come la corazzata, come è successo in altri casi, benché siano veramente sempre stati al suo fianco, sempre stati efficaci, a volte pure troppo. Ci sono quelle tappe che Pogacar ha vinto dicendo ai miei compagni che tiravano troppo. Non so se era una scusa. Fatto sta che la UAE, tolto forse il reparto velocisti, che però, come ha detto lo stesso Poggi, erano qui per aiutare lui in primis e poi dopo per provare a vincere le tappe, ha fatto un giro rasente la perfezione. Tra questi, chiaramente, si innalza su tutti, si staglia la figura di Rafał Majka, che è stato, oltre che un ultimo uomo straordinario in salita, dà proprio l'impressione di essere un leader nato, un equilibratore di questa squadra, forse quello anche che è necessario quando si ha un capitano tutto sommato ancora giovane, per quanto ci sembri un corridore arrivato, perché arrivato è ancora giovane. L'esperienza di Majka sicuramente è stata degna di un MVP. UAE peraltro pronta all'assalto al Tour de France con quelli che non ha portato al Giro d'Italia, per esempio, quindi i vari Ayuso, Adam Yates, Brandon McNulty, Tim Wellens, Nils Polit, Joao Almeida, insomma corridori fenomenali per aiutare. C'è anche quello, mi sono fermato a un certo punto anche dal panettiere oggi, sì. Prendere due gallette. Mm-hmm. Pogacar, anche Pogacar dicevano che portano al Tour, sì. Fantastico. Sì, sì. Ti menziono altri due nomi però. Vai. Che hanno fatto molto bene questo Giro d'Italia, chiaramente sono quelli arrivati sul podio. Indubbiamente. Io non ci scommettevo tanto su Geraint Thomas, per esempio, perché fin dall'inizio Giro d'Italia mi chiedevo se sarà lui, per esempio, il primo Ineos ad arrivare al traguardo. Sì, Thomas ha confermato un'altra volta di non essere prossimo alla pensione, di essere un corridore serio, di essere un corridore che quando arriva l'occasione importante non fallisce, non ha momenti di crisi. Per cui, Thomas, benissimo, benissimo. Dani Martinez. Una piccolissima crisi nel corso di questo giro, ma tutto sommato, devo dire, forse anche aiutato dalla situazione un po' di stallo che c'è stata tra gli uomini che dovevano giocarsi le posizioni di rincalzo della classifica, le posizioni NP. Però cosa gli dobbiamo dire a questo? Chapeau. C'era un livellamento abbastanza generalizzato, condizione nella quale Geraint Thomas sguazza abbastanza. Non era scontato che Dani Martinez andasse così forte, perché è il suo decimo Grand Tour questo Giro d'Italia, e precedentemente ne ha chiuso solo uno in top 10. È il Giro 2021, quando fece quinto. Per cui Dani Martinez ha dimostrato di essere molto solido. Anche ieri sul grappa ha attaccato Filippo. Poi le gambe non erano molto superiori a quelle dei rivali. Però anche cronomo va forte, si difende. Insomma, è un gran bel corridore da corsa tappe. Capitano di una Bora, anch'essa promossa. Bora et la Bora? No, non sono così sicuro della promozione della Bora, onestamente. Ma quantomeno per quanto riguarda Dani Martinez, l'abbiamo già detto a lungo ieri, siamo anche abbastanza stupiti. Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo detto ieri, non stiamo a ripeterci. Altri uomini di classifica che ti hanno colpito, che meritano, scegli tu la scala dell'MVNP. Non so come è fatto questo premio. Cioè, potrebbe essere un premio in mente al Tour de France, quando premiano Pogacar e gli danno dei manichini per mettere le altre maglie. Ah. Quando Pogacar vinceva il Tour de France. Ecco, potrebbe essere solo i manichini senza Pogacar. Fantastico. Un modellino con dei piccoli manichini. Proponiamola, eh. La proponiamo. Vieni, ma so che ci ascolta, per cui... Ciao Mauro. A me ha impressionato Antonio Tiberi, perché è andato molto forte a cronometro. In salita si è difeso parecchio bene. Poi, se guardiamo la classifica, no? Generale, top 10 senza i tempi del cronometro, viene fuori una cosa molto simile. In realtà, se non sbaglio, la top 5 è identica. Però Antonio Tiberi, al primo Giro d'Italia, vincitore della maglia bianca, ha dimostrato una solidità invidiabile. Per cui, per il futuro, io ho parecchie aspettative su questo ragazzo. Sì, sì, sì. Pensa che io a inizio Giro d'Italia avevo detto, avevo esternato delle aspettative basse, pensando a quanto ci aveva dato dentro in tante corse precedenti, pensando che faticasse a tenere fino all'ultima settimana, e invece anche lui, forse le dinamiche di corsa lo hanno favorito, però quelle sono state per tutti, per cui non è che ci sia da lamentarsi. Anche lui è stato lì fino in fondo, molto sorprendente. Uomini di classifica, insomma, poi tutti pieno merito. A me è piaciuto, sì e no, ma è piaciuto il giro di Rubio, e ci tengo a menzionarlo, mi è piaciuto tantissimo il giro di Jan Hirt, perché non solo ha preso un piazzamento che non so se è il suo migliore in carriera in un grande giro, ma ci va vicino, non stiamo a cercare, lo cercheranno i nostri ascoltatori, però mi è piaciuto come l'ha preso, ha attaccato un sacco, è entrato nelle fughe e ciò nonostante poi nei momenti duri di selezione era lì davanti. Bravo, bravo Jan. Passando a un suo compagno di squadra e a tutt'altro campo, MVP riguardanti i velocisti, diamo un exequo a Milan e Merlier, cosa facciamo? No, secondo me Milan è un po' sopra, anche perché oltre alle tre vittorie... Per altezza anche. Anche, ma ha fatto anche tre secondi posti, per cui decisamente più continuo, motivo per cui ha anche vinto il ciclamino. Sì, vero, però io mi sento di tenere alto il nome di Merlier... Per tante cose che ci ha fatto vedere, per tante cose, per quello che ci ha fatto vedere nell'ultima settimana, che denota un Merlier che forse non conoscevamo, l'ha detto anche lui, che ci teneva a smentire chi dicesse tu sei uno che pam pam pam all'inizio delle grandi corse vince e poi si eclissa se non torna a casa. E questa cosa secondo me è un merito particolare e poi... Gli do un punticino in più per il capolavoro tattico e fisico della volata di oggi, che per quanto mi riguarda li porta alla pari. Non mi sento non me ne frega niente di dire uno meglio dell'altro. Bravi, bravi entrambi. Anche Merlier, velocista particolare, perché ha solo il suo quarto Grand Tour, pensa un po', forse non il più forte, ma il più scaltro. Sì, sì, sì. E poi, vabbè, e poi ci sono stati tanti cacciatori di poche tappe, perché poi l'abbiamo detto tante volte nel corso di questo Giro d'Italia, è un giro in cui, se sommi le vittorie di Pogacar, le 3-3 che si sono spartiti Milan e Merlier, la crono che chiaramente se l'è presa Ganna, sono rimaste veramente le briciole per i cacciatori di tappe. Io non ho fatto statistiche, non so se le hai fatte tu, ma non le hai fatte, non te lo chiedo. Ma negli ultimi anni, al giro, ma così come in generale nei grandi giri, mi ricordo... Ho una sensazione di molte più fughe riuscite, quantomeno al giro, ma secondo me in generale. Per cui è stato un giro in cui c'è stato da faticare per trovarsi il proprio posto al sole, per ricollegarci con un'altra citazione cara a Marta Bacigalupo. E non so, tu sul tuo taccuino chi ti sei segnato? Per esempio Alaphilippe e Pelayo Sanchez, due corridori molto diversi, no? Uno super conosciuto, quasi, diciamo, ha imboccato il viale del tramonto, e l'altro invece è giovanissimo, alla prima stagione alla Movistar. Tutto da conoscere, li abbiamo visti anche assieme nel traguardo di Rapolano Terme. Entrambi sono riusciti a vincere una tappa, entrambi hanno praticamente centrato ogni fuga che potevano centrare, ci hanno fatto entusiasmare e ce li goderemo ancora, speriamo, a lungo con queste gambe. Sì, non credo che Alaphilippe abbia così... infilato il viale del tramonto. Alaphilippe di questo giro non è un corridore che ha infilato il viale del tramonto, magari non è un corridore che torna a vincere i mondiali, però avercene di corridori come questo, di Alaphilippe come questo, anche per lo spirito con cui ha affrontato questo Giro d'Italia, cioè anche al di fuori dell'ambito sportivo, è stato sempre sorridente, sempre collaborativo con tutti, gioioso di far festa con i tifosi, l'ho visto fermarsi una marea di volte. Ti cito un episodio che non avevo mai detto, mi sembra. A Europa, Alaphilippe è avvicinato da un tifoso giovane, un ragazzino, si fanno un selfie e Alaphilippe, il corridore, chiede al ragazzino rifacciamola perché aveva gli occhi chiusi. Hai visto? Come faceva a saperlo? Non lo so, si vede che quando il flash è partito... Maestro del selfie, col flash l'avevano fatto. Non lo so. Tra l'altro stavo pensando adesso, comunque abbiamo citato Hirt, Merlier, Alaphilippe, alla faccia del giro che ha fatto la Quickstep, eh? Hai ragione. Assolutamente non attesa. Squadra, anzi, che viene criticata la Quickstep, come la Movistar, hai citato Pelayo, sono due squadre verso le quali quando c'è un solo difetto si accaniscono tempeste di critiche, spesso anche ingiustificate. E hai detto loro, beh, Giulio Pellizzari non ce lo vuoi mettere tra gli MVP? Ce lo mettiamo assolutamente, doveva ritirarsi alla seconda settimana, mi aveva detto che fosse per me, io sarei già con le gambe in aria sul divano, invece è rimasto, ha fatto una terza settimana che fa sperare tantissimo per il suo futuro, attaccante nato, corridore che gasa tantissimo. Speriamo faccia un po' di vacanza adesso, c'è la festa del patrono, ho detto l'altro giorno che se la goda. Ti aggiungo a questi sicuramente Jonathan Narváez, per me veramente in alto nella classifica degli MVP di questo Giro d'Italia, l'unico oltre a Tadej Pogačar ad aver vestito la maglia rosa, e già questo non è un dato da poco, ha debugnizzato il giro di Pogačar e non era una cosa facile. Ma al di là di quella giornata di Torino, per tutto il giro Narváez è stato magnifico, è stato un attaccante convinto, tenace, che ha animato tantissime azioni, che ha sfiorato quel numero a Napoli, ma l'ha fatto quel numero a Napoli anche se non ha vinto. Straordinario, veramente un giro. Sapevamo già del valore di Narváez, non è che l'abbiamo scoperto a questo Giro d'Italia, però ci restituisce un Narváez ancora più interessante ed è una cosa che mi fa incredibilmente piacere. Abbiamo parlato di fughe di attaccanti, inevitabile citare Steinhauser, presenza fissa del nostro podcast, ma anche corridore che ha vinto una tappa e si è battuto in tante altre tappe. Non ha vinto tappe, ma ci metto Maestri e a questo punto con lui anche Pietro Bon, che abbiamo visto dominatore delle classifiche di questo Giro d'Italia. E una squadra, a proposito di classifiche, vincitrice della classifica a squadre, la mia Decathlon Age d'Auxerre, che sta vivendo una stagione indimenticabile, come abbiamo già sottolineato negli ultimi giorni, e premio a tutti. Si sono goduti questa loro festa. Assolutamente sì, hanno anche Ben O'Connor quarto. Secondo, quarto posto in un Grand Tour per Ben, questo però in modo diverso, corso tra gli uomini di classifica. Ricordiamo che al Tour 2021 centrò un grande piazzamento grazie a una fuga. Però positivo anche lui, tutto sommato, no? Assolutamente, assolutamente. Abbiamo parlato di classifiche tutto sommato marginali fin qui. È il momento, giunti non ancora alla prima ora di questa puntata, credo, ma adesso ci arriveremo, è il momento di andare a parlare della classifica che, almeno insieme all'Intergiro, muove le folle appresso al Giro d'Italia, perché noi non abbiamo mai parlato di maglia nera fin qui in questo giro. Imperdonabile. Imperdonabile. E allora diciamolo, diciamo come si è concluso questo Giro d'Italia, dominato da Alain Rioux dell'Arkea, che è arrivato ultimo a 6 ore 2 minuti e 28 secondi da Pogačar, ma che ha rifilato 6 minuti e 53 a Peppe Cerny, 7.03 a Tobias Lund Andersen, Andresen, sbaglio sempre, e poi Fabian Lienhard, e quinto a sorpresa Tim Merlier, proprio lui, che fa un giro a due facce. Comunque, stiamo su Alain Rioux, perché è un corridore che ci incuriosiva già prima di aver notato la sua interessante posizione in classifica, e quindi ieri mattina siamo andati a incontrarlo e vi facciamo conoscere la maglia nera del Giro d'Italia. Alain Rioux, bonjour, ça va? Ça va, ça va. Bientôt la fin de ce grand tour. Comment était cette tour? Ben, j'ai envie de dire mieux que l'an passé par rapport à la météo, tout ça. C'était un peu moins dur pour le physique, tout ça. Je suis assez content des jambes. Après, j'ai eu deux belles chutes qui m'ont un peu handicapé sur quelques étapes et c'était un peu compliqué de les finir, mais ça l'a fait. Du coup, je suis content d'être là. Questa intervista, come tutte le interviste, inizia con i convenevoli, perché siamo delle persone educate. Vi ricordo che è di ieri, per cui gli chiedo come sta e lui mi dice bene, ormai quasi alla fine di questo giro. Com'è andata? E dice, insomma, meglio dell'anno scorso dal punto di vista fisico. Ero abbastanza contento della mia gamba, ma ho fatto due belle cadute che mi hanno penalizzato in alcune tappe ed è stato complicato portarle a termine, ma comunque sono felice. Ed era felice, era bello sorridente Rioux. La seconda parte di questa intervista riguarda un'attività che ci ha incuriosito, il motivo per cui lo cercavamo, perché il nostro Michele Pelacci è talmente perennemente attaccato al cellulare, tranne quando guida, giustamente, nessuno deve usare il cellulare quando guida, che Michele studia ogni giorno i profili Strava dei corridori e ha notato che ogni sera Rioux si fa una bella passeggiata. Così gli abbiamo chiesto di raccontarci un po'. Ouais, on aime bien. C'est quelque chose qu'on avait en place déjà depuis longtemps dans l'équipe, surtout avec Warren Barguil avant, on faisait beaucoup ça. Cette année, on est plus moi et Michel Riss qui faisons cette petite marche. On appelle ça un peu la marche digestive, quoi, après manger, une petite marche avant d'aller dormir, ça fait du bien, se prendre un peu la fraîcheur. Mais vite ou non, non, tranquillement. Parfois, on voit c'est un endroit, des hôtels sympas où on peut voir des choses bien, comme on peut rien voir, juste une route nulle, mais c'est. C'est juste pour la petite digestion du soir. T'as vu des belles choses dans ces balades? Ouais, on a fait des hôtels sympas et surtout quand on est un peu en montagne, tout ça, c'est toujours sympa, les petits villages comme ça. Après, c'est souvent nuit, donc on voyait pas non plus grand chose. Mais... Et vous parlez de quoi pendant les balades? courant de tout et de rien. Ça peut être de la course, tout ça, des dernières nouvelles, de la vie, quoi. È una cosa che ci piace, dice Ryu, che si fa già da tempo in squadra, soprattutto si faceva con Warren Barguil, a cui piaceva molto. Quest'anno non è più con noi ed è soprattutto con Michel Ries che va a passeggiare, che va a fare queste piccole camminate che loro chiamano la marcia digestiva. Fanno dopo cena, prima di andare a dormire, e dicono che fa bene e mantiene freschi. Gli chiedo se è una marcia, quindi se marciano velocemente o se è solo una passeggiata, e lui dice no, tranquillamente. A volte siamo in dei belli alberghi, possiamo vedere delle belle cose, altre volte sono strade in cui non c'è nulla e quindi è giusto per la digestione. E gli ho chiesto quindi se ha visto delle cose belle, delle sue passeggiate al giro. Dice che hanno avuto dei begli alberghi, soprattutto in montagna è bello trovarsi in piccoli paesini, solo che per lo più avvengono di notte queste passeggiate, quindi non è che si veda molto. E infine gli ho chiesto di cosa parlano in queste camminate e lui dice di tutto e di niente, spesso della gara ma anche di attualità e insomma in sintesi della vita. Che bello fare, voglio andare anch'io a passeggiare con Alan Ryu. Vieni anche tu, Michele Pelacci, ci facciamo una passeggiata con Ryu prossimamente. Io però non so francese, di cosa parliamo? Della vita. Fantastico. Va detto che a Ryu piacciono parecchie attività fisiche, in particolare è un grande appassionato di attività acquatiche, mi ha detto. Vi racconto qualcos'altro senza farvi sentire tutto alla sua voce. Lui durante l'inverno pratica il paddle surf, che avete in mente, è il surf con il remo. Adesso gli appassionati di paddle mi cercheranno per picchiarmi. Che è un'attività che ha cominciato quando viveva in Bretagna e dice di non raggiungere un grande livello e che gli piacerebbe molto un giorno provare il windsurf, che in francese chiamano planche à voile. Pensa che bel popolo, che belle parole che sanno creare a differenza nostra. No, non è vero, siamo bravi anche noi. È un'attività che svolge anche suo padre, ma dice al momento è un po' difficile farla convivere con il ciclismo. E gli ho chiesto anche com'è che tutte queste attività le svolga in inverno, se è vero che tutti i bretoni non conoscono il concetto di freddo, perché le attività acquatiche in effetti... E lui anche questa cosa me l'aveva confermata, mi aveva detto che in effetti lui è un corridore che rende molto meglio con condizioni meteo cattive. E che i risultati migliori li ha sempre fatti col maltempo, anche se mi ricordo che mi aveva detto non è che mi piaccia il maltempo. Comunque torniamo alla nostra chiacchierata, al prossimo pezzo, e siamo arrivati al tema caldo, ovvero la maglia nera, perché come ben sapete Ryu oggi l'ha conquistata, ieri era già l'ultimo in classifica. Ouais, parfois on en parle dans le bus, après en fait ça donne un peu de... Parfois je reçois des messages sur ce sujet là justement de gens. Ça donne un peu de notoriété, après j'aurais bien aimé limite être à cette position là mais avoir fait peut-être quelque chose dans le Giro. Pour l'instant j'ai pas réussi à faire d'échappée ni rien, donc être juste dernier comme ça je suis bon. C'est un peu malgré moi aussi parce qu'il y a eu pas mal d'abandons avant. Mais bah, ça me donne parfois on parle de moi quoi, mais je me dis que j'aurais préféré quand même être un peu mieux placé, qu'on parle pas de moi que pour ça, ou alors j'aurais aimé faire une belle échappée. Et après pourquoi pas qu'on parle de moi aussi pour ça quoi. Dice sorridente che sì, a volte ne parlano sul bus del fatto che lui era in maglia nera e in effetti la cosa aveva creato un po' di interesse, ha già ricevuto parecchi messaggi e gli ha dato una piccola notorietà. Poi dice che ovviamente avrebbe preferito essere in un'altra posizione, devi aver combinato qualcosa al giro, che insomma non è riuscito a entrare nelle fughe, essere ultimo così, insomma... È anche una posizione in cui si ritrova non per causa sua, perché dice ci sono stati tanti ritiri di chi stava dietro di me, per cui magari sarebbe stato decultimo, dodecultimo, non lo sappiamo. Comunque dice, fa parlare di me, forse avrei preferito un miglior piazzamento e che si passasse di me, che si parlasse di me un po' meno, o si parlasse di me per una bella fuga, perché no? Però insomma, noi siamo qua a parlare di Alan Ryu per la sua maglia nera, ma anche perché è un corridore simpatico e... Così, in conclusione di questo nostro specialino su questo corridore, altre due curiosità. Noi Alan Ryu lo conosciamo solo di nome, si è rivelato veramente una persona con cui chiacchierare, d'altronde le passeggiate sono un bel allenamento, anche è stato super disponibile e non sempre i corridori apprezzano, soprattutto quando si parla di maglia nera di ultimo posto, insomma non è ovvio l'apprezzamento. E quindi gli abbiamo chiesto qualcosa riguardo ai suoi splendidi baffi e allo strano nome di suo figlio. Non, j'avais fait ça après. J'avais oublié mon rasoir sur une période de course en Belgique où j'étais parti plus de 10 jours. Et du coup, en rentrant, j'avais juste tout rasé sauf la moustache pour voir ce que ma femme disait. Puis elle m'a dit: Oh, ça va. Du coup, depuis, j'ai gardé. J'ai dit que je ferais tout le Giro avec et puis après on verra si je coupe pour l'été. Ok, merci beaucoup. Une question, le nom, le prénom de ton petit, c'est Elio? Aelio. Elio. Non, Aelio. Aelio. Ouais. Aelio. Oh. C'est invention. Ah, ok. Ouais. On avait regardé un peu sur internet et pas beaucoup de... En France, quasiment pas. Un peu en Italie, je crois. Mais ouais, c'est pas connu, c'est un peu inventé. Quand on cherchait le nom, bah, on était tombé là-dessus. J'avais inventé ça et puis on avait trouvé ça bien. Merci beaucoup. Ciao. I baffi decide di averli fatti dopo una decina di giorni di corse in Belgio, quando aveva il morale alto, e al ritorno si era tagliato tutto tranne i baffi per vedere l'effetto che faceva e per vedere cosa avrebbe detto la sua compagna, che ha apprezzato, e ha apprezzati anche io, dei bellissimi baffi, Ryu. E quindi ha deciso che avrebbe fatto tutto il giro così e poi si vedrà. Per cui teniamo monitorati i social di Alan Ryu per vedere dopo il giro cosa deciderà. E infine sentite la domanda di Leonardo, che gli chiede da dove viene il nome molto strano del loro figlio, che è Aelio. E Ryu dice che è un'invenzione. Hanno cercato un po' su internet, hanno visto che in Francia quasi non esistevano, forse in Italia ce ne sono, probabilmente pensando a Elio, e dice non è un nome comune, è un po' un nome inventato, quando cercavamo un nome ci è venuto in mente questo e ci è piaciuto. Filippo, io stavo ascoltando la tua traduzione all'intervista di Ryu, non sapendo io la lingua d'Oltralpe, ma anche cercando una statistica a proposito di ritardi, perché ho visto che Simone Velasco è arrivato precisamente a 2 ore dalla maglia rosa. Allora mi sono chiesto, perché la Pelacci Analytics ha come obiettivo quello di fornire statistiche completamente inutili. Non si ferma mai. Pelacci Analytics, che ricordiamo, l'abbiamo detto per tutto il giro, è una rubrica smaccatamente copiata alla Prunotto Analytics di Scusate il Disturbo, splendido podcast sul football americano, con la differenza che la Prunotto Analytics sono statistiche vere e quelle di Pelacci sono fanfaronate. Dimmi. Perfetto. Sto cercando, tuttora non mi sono fermato nella ricerca, stiamo cucinando, insomma, chi è stato il precedente ciclista del Giro d'Italia ad aver chiuso la corsa con un distacco spaccato, diciamo, con un'ora spaccata. Distacco spaccato, vabbè, stai cercando di cambiare argomento, di la verità. Forse sì. Forse sì, perché sai che è arrivato il tuo momento. Sì. E allora, viviamolo questo momento. La parola del giorno. 今日の一言。ウルティモ。最後。最後。 Ultima puntata, ultimo classificato, ultimo. Ma non è possibile, scusa. Ok, devo andare a scuola, ma è zaino questa parola. Cioè, non mi è chiaro. Scusa. Non è più sai no. Sai no. Ah, sai sì? No. Ok. Sai no. Michele, abbiamo imparato almeno una parola in giapponese. Ti abbiamo portato in giro per l'Italia per 21 e passa giorni, più giorni di riposo. Ti abbiamo fatto mangiare, bere, lavatrice. Quantità di lavatrici? Forse lavatrice in giapponese l'avresti imparato subito. Almeno una abbiamo imparata. Bicicletta, sì, l'avevamo imparata. Sdenja, ma più o meno, abbiamo imparato soprattutto velodromo. Velodromo l'abbiamo imparata, sì. Pista. E borraccia? Borraccia, oi. Aspetta che stai chiaramente passo leggendo tra gli appunti, sto chiaramente prendendo tempo. Bottle? Qualcosa del genere, forse. Possiamo dire che è stato un fallimento questo tentativo di farti imparare il giapponese, Michele Pelacci. Ma è stato un successo la mia ricerca della statistica, che ti dicevo prima, sul corridore arrivato ad un tempo spaccato dal vincitore, perché nel 2011 Johann Sebastian Horrack della Katiuscia arrivò... Juan è spagnolo, Juan Sebastian. Però è J... Vabbè. Arrivò a 2 ore precise da Alberto Contador. Quindi diciamo che Velasco è il nuovo Horrack. Esatto, che non ricordo. Però le due posizioni com'erano? Mi sai dire anche questa cosa? No, questo mi sarebbe una ricerca troppo difficile, una ricerca troppo complicata. Torniamo dove eravamo, parlavamo di ultimi. Ultima puntata, ultimo in classifica, ultimo della classe di giapponese Michele Pelacci. Ultimo giro per Domenico Pozzovivo, che oggi... facendosi anche vedere in testa al gruppo, è stato un bel momento, così divertente, anche affettuoso, perché tutti un po' abbiamo in un qualche modo voluto bene al corridore Domenico Pozzovivo. Al traguardo della tappa di oggi c'era Leonardo Piccione, che sta scendendo verso la sua natia Corato e si è fermato in quel di Roma. Lo ha incontrato al traguardo, ve lo facciamo ascoltare insieme un po' dei suoni della festa di Roma e ad altri due incontri che ha fatto all'arrivo, un blocco unico di interviste, l'infante del paese Manuel Marcellusi e colui che nella puntata zero, se non sbaglio, avevo vaticinato come la rivelazione del giro, ovvero Maidis Mikkels. Un pronostico che non so se ho preso al 100%. Diciamo top 10 della rivelazione, forse nella classifica generale, ma top 1 nei nostri cuori. Sì, perché comunque sicuramente è stata una rivelazione per il numero di apparizioni a Gironimo, per cui l'ennesima intervista a Maidis Mikkels e soprattutto l'incontro al termine del suo ultimo Giro d'Italia, 18esimo se non sbaglio, 19esimo, non ce la siamo segnata questa statistica, per cui la sapete voi che ci ascoltate. Domenico Pozzovivo. Aspetta, io qua. Facciamo una grandissima applauso. Ecco. Eccomi qua, ciao a tutti dalla sala della Protomoteca, anzi dall'esterno della sala della Protomoteca a Roma in Campidoglio. Sono arrivato qui poco fa dalla linea d'arrivo della 21esima tappa del Giro e in realtà sono qui da stamattina, sono arrivato questa mattina in treno. Ho colto sulla linea del traguardo di oggi alcune voci, tre corridori nello specifico che sentirete uno dopo l'altro. Adesso al primo tenevamo particolarmente da diversi giorni, avevamo preso un appuntamento con Domenico Pozzovivo, volevamo chiacchierare con lui, ringraziarlo per quello che ha fatto per Gironimo quest'anno nella prima settimana con le presentazioni di tappa. Il pozzo di scienza celeberrimo, prima che diventasse parmense, è stato ufficialmente quello lucano del corridore della Bardiani, che oggi ha concluso la sua carriera, quantomeno quella al Giro d'Italia. Quindi ho parlato con Domenico Pozzovivo, stanco ed emozionato, dopo la linea del traguardo, e poco dopo mi sono fermato con un altro dei suoi compagni di squadra, un altro corridore della Bardiani, Martin Marcellusi, che è romano ed è stato protagonista della fuga di giornata. A Marcellusi ho dovuto chiedere un consiglio sul da farsi questa sera qui a Roma. Infine ho intervistato il giovane corridore estone della Intermarché, Maidis Mikkels, che già avevamo intervistato durante questo Giro d'Italia. Era il suo primo grande giro, l'ho visto da solo sulla sua bicicletta al centro della strada con il Colosseo alle spalle, e lui era abbastanza, come dire, sorpreso da tutto quello che gli era intorno, sembrava spaesato anzi in questo contesto. L'ho visto lì nulla facente, silenzioso, gli ho voluto fare una domanda, un paio, su questo suo primo giro e sull'essere arrivato a Roma. Ascoltiamo questi tre contributi e dopo traduco l'intervista, la breve intervista proprio a Mikkels della Intermarché. Domenico, è fatta, in questo momento prevale di più la liberazione, vorrei dire quasi, e un po' di tristezza, no? Di nostalgia già. È la seconda, diciamo, la nostalgia e la tristezza purtroppo prevalgono, ma fa un po' parte comunque del mio carattere cercare sempre poi di trovare nuovi stimoli, quindi mi devo rimettere in gioco e cercarne di nuovi per il futuro. La cosa che ti mancherà di più del Giro d'Italia? Ma la cosa che mancherà di più è il fatto di essere per 3 settimane in un gruppo in cui ci si confronta tutti i giorni, cerca di superare i propri limiti e quelli degli altri. Tu hai detto stamattina: non volevo che fosse un giro di rappresentanza il mio. Non lo è stato, ti abbiamo visto anche protagonista alcune volte, no? No, assolutamente, è stato comunque un giro che dal punto di vista tecnico mi ha rappresentato bene, perché comunque è frutto comunque di difficoltà nella prima settimana, superate anche grazie a una condizione che in quel momento era eccellente, e poi anche lottare contro un po' di malattia negli ultimi 10 giorni mi ha comunque dato tanta grinta. Tra le tante cose belle che hai trasmesso agli appassionati di ciclismo, cosa vorresti che si ricordasse, per quale motivo vorresti si ricordassero di te gli appassionati del Giro? Ma in tanti me lo hanno scritto, magari anche sui social, il fatto che comunque sono riuscito a essere a un livello molto alto per tanti anni, la costanza di rendimento, e poi il fatto che magari riesco a motivare persone che hanno incidenti o comunque delle difficoltà a superarle. Il prossimo maggio, l'anno prossimo a maggio, in cosa sarai impegnato soprattutto? In primavera, cosa ti ispira? Ma non lo so ancora, magari sarò qua in un'altra veste, non lo sappiamo. Ultima cosa, è personale, un ringraziamento da parte nostra per quello che hai fatto quest'anno con le tue presentazioni di tappa, ma poi in generale per quello che hai fatto in questi anni. Io da quando seguo il ciclismo con cognizione di causa, tu c'eri sempre al Giro per 18 anni ed è emozionante averti seguito, quindi grazie, e spero che insomma ti sia arrivato questa emozione da parte degli appassionati di ciclismo e da parte nostra nel nostro piccolo. Sì, mi è arrivata tantissimo, è stata molto motivante e ha rappresentato anche una, diciamo, mi ha dato ancora più, mi ha fatto capire che quello che ho fatto non è stato proprio buttato via, ma ha dato, ha trasmesso qualcosa alla gente. Io ringrazio voi perché comunque con il vostro podcast trasmettete tanta passione e mi auguro di continuare a farlo per tanti anni. Grazie Domenico, in bocca al lupo per il prosieguo della tua vita. Grazie, crepi il lupo. Martin Marcellusi, ti sei goduto qualche giro della tua Roma davanti a tutti? Sì, diciamo che era il mio obiettivo per oggi. È stato fantastico, ho sentito il tifo lungo tutto il circuito, sono veramente contento, è andata come volevo. Hai riconosciuto delle persone a bordo strada? Sì, ho riconosciuto parecchi amici, soprattutto anche la famiglia, e mi ha fatto molto piacere. Un buon giro per te, no? Tutto sommato. Sì, diciamo che le prime 9 tappe sono andate bene, poi c'è stata la caduta di Napoli che ha complicato la seconda metà di giro, però ci siamo divertiti comunque. Un'ultima cosa, il tuo obiettivo tu l'hai raggiunto oggi andando in fuga, io adesso il mio obiettivo è sapere da te dove devo andare stasera a Roma, io devo passare la notte qua, un posto dove mangiare o bere una cosa buona che tu ami. Bah, sicuramente da Tonnarello alla carbonara. Accetto il consiglio, grazie mille e congratulazioni. Grazie, grazie. Mathis Mikkels, your first Grand Tour is over. What's your first impression? No, I'm happy it's finished. Happy to be in here and finally some rest. I'm really tired. Yeah. What's the first thing you do tomorrow morning? Go to the airport and travel back to Estonia. So you will not rest even tomorrow morning? No. Tomorrow is travel day. So tomorrow in the evening you will be home? Yeah. You will sleep a lot, I guess. Yeah, I hope so. Have you been in Rome before in your life? No, today is my first time. First time? So it was a tour of the city for you also, this last stage? Yeah, you can say so, but I really didn't have time to look around. So hopefully tonight I can see something. Did you see the Colosseo there? It's just back there. Yeah, no, I can pay more attention now, I see, yeah, but to be honest, during the race, no. Okay, congratulations for your Giro and enjoy your rest now. Yeah, thank you. Dunque a Mikkels ho chiesto: Mathis, è il tuo primo grande Giro ed è finito, impressioni? E lui ha risposto: sono felice di averlo completato, di essere qui, finalmente un po' di riposo perché sono veramente, veramente stanco. Qual è la prima cosa che fai domattina? Gli ho chiesto e lui ha risposto: vado all'aeroporto e torno in Estonia, sorridendo. E io gli ho detto: quindi non ti riposi nemmeno domani mattina? E no, ha detto Mikkels, domani è giorno di viaggio per me. E ho voluto approfondire e ho chiesto: quindi domani sera però sarai a casa? Sì, ha detto lui, sì, anche se non era convintissimo che dovrebbe fare in tempo ad arrivare a casa domani sera. E dormirai molto, gli ho detto, e Michels ha risposto, spero, quantomeno. E poi gli ho chiesto, ma eri già stato a Roma nella tua vita, visto la sorpresa che ho visto sul suo volto in quei momenti? E lui mi ha risposto, evidentemente no, oggi è la prima volta nella mia vita a Roma. E io gli ho risposto a quel punto, quindi questa tappa per te è stata anche un tour della città, se vogliamo. E Michels ha replicato, diciamo così, anche se davvero non ho avuto tempo di guardarmi intorno durante la corsa, spero di averne stasera e di, insomma, poter fare anche il turista a Roma. Io a quel punto gli ho detto, ma hai notato che dietro di te, alle tue spalle, c'è il Colosseo? L'hai visto? Lui si è girato e ha sorriso, ha detto sì, adesso lo vedo, ora posso prestare più attenzione, durante la corsa era impossibile. E a quel punto gli ho fatto le congratulazioni per il giro terminato e gli ho augurato buon riposo e lui ha ringraziato. Dunque, questi erano gli incontri fatti sulla linea del traguardo oggi, poco fa, a Roma. Sono in attesa, siamo in attesa qui che arrivi Tadej Pogačar, perché oggi la conferenza stampa sarà dal vivo, non nel solito track, ma nella sala della Protomoteca, qui dove sono io, e ci sentiamo più avanti nella puntata, magari vi riferisco qualcosa di quello che ci dirà il vincitore del Giro 2024, che forse qualcuno al supermercato vi ha detto essere Tadej Pogačar. A dopo! Sei un appassionato di ciclismo? Sei un pedalatore della calda domenica? Ti sei comprato una bicicletta che stai pensando di usare? Allora anche tu hai bisogno del Bincio! Bincio! Il Bincio? Ma che cos'è? Nel 2024 non si può non conoscere il Bincio! Tutti i ciclisti e i possessori di biciclette ne hanno almeno uno! Il Bincio ti permette di andare veloce! Il Bincio ti fa invidiare dagli amici! Il Bincio è democratico e ti fa vincere il Giro d'Italia, ma anche una gara di cui non importa niente a nessuno nel tuo paesello! Bincio! Ma come fa? Grazie alla magia del Bincio! Bincio! Pensa che numerosi studiosi stanno studiando le capacità, le prestazioni e l'inconfondibile savoir-faire del Bincio! Non riesco proprio a capire come possa fare... E non l'hanno capito tutti questi studiosi studiatissimi! E vuoi capirlo tu? Bincio! Abbandonati alle innumerevoli prestazioni del Bincio! Bincio! Solo per oggi potrai acquistarne due Bincio! Al prezzo di due Bincio! E avere i complimenti dei commessi! Cosa aspetti? Compra il Bincio! Pedala, vinci e non avere più avversari! Scusate, ma se tutti si comprano il Bincio... Non c'è più nessuno che perde! È arrivata la filosofa! Basta con la filosofia! Comincia a vincere! Col Bincio! Bincio! Bincio! E scopriamo sempre cose nuove sul Bincio. Forse non si è ancora capito esattamente come è strutturato, che vantaggi dà oltre a farti vincere, però scopriamo sempre cose nuove. Lo sanno studiosi studiatissimi? No, non lo sa, stanno studiando, stanno ancora studiando. Diciamo è talmente arrovellata la pubblicità che ti si perde ogni tanto. Perché, per esempio, i commessi fanno i complimenti quando perché hai comprato il Bincio, o due Bincio. Ho scoperto anche oggi che Bincio non si declina al plurale, cioè un Bincio, due Bincio, tre Bincio, non sono i Binci. Comunque abbiamo capito che una cosa che ti dà il Bincio è l'inconfondibile savoir-faire. Non so cosa voglia dire questa parola, ma... Pelacci, dobbiamo insegnarti, dobbiamo portarti in posti di classe, così almeno impari un po' il savoir-faire. E noi di posti di classe ne abbiamo frequentati nelle ultime 24 ore. E la nostra giornata è stata un po' particolare perché ci siamo... Allora, ci siamo divisi innanzitutto, formazione di questo podcast. Marta è a Genova ormai da qualche giorno, ci manca fortissimo nei nostri cuori. Leonardo ha viaggiato verso Roma, noi ci siamo andati a Mogliano Veneto, lì ci siamo svegliati, abbiamo preso il nostro furgone e arrancando con il nostro furgone siamo andati prima in quel di Traversetolo, dove ha sede la Pelacci Analytics, a sistemare delle cose negli uffici della Pelacci Analytics, poi a Milano, da Milano direttamente a Piverone, dove ha sede mulatero editore, grazie al quale noi siamo qui in quanto editore di Al Vento, e poi di nuovo a Milano. Eccoci qua, una giornata decisamente ricca di chilometri. Ne ha fatti di più, ma molto più comodo Leonardo Piccione sul bel treno notturno. È da lì che ripartiamo, con, cioè, perché noi non abbiamo perso l'occasione per imbucarci comunque anche brevemente nel treno notturno che ha portato Leonardo a Roma. Lì abbiamo incontrato i nostri amici Steven Farrand e Barry Ryan di Cycling News. Vi facciamo sentire quattro chiacchiere sul treno e poi vi diciamo qualcosa di più sul posto in cui ci siamo svegliati questa mattina a Mogliano Veneto. Dunque, signor Trofeo Senza Fine, com'è andato questo giro? Ce ne fate una ufficiale, se voi siete? Noi siamo giornalisti del... Sì, mettetevi, ecco. Come adesso. Come adesso? Come adesso, io continuo a intervistare il trofeo. Sentiamo le vibrazioni. Allora, entriamo in questo vagone ristorante. Bellissimi. Entriamo e ci dicono bellissimi. Lo so. Siamo venuti a fare un sopralluogo tipo le rubriche enogastronomiche. Avete già assaggiato? Ancora no, siamo qui a posto. Siete in attesa. Programma della nottata? Ma abbiamo finito di lavorare, no? Quindi... Avete già finito? Sì, più o meno, no, dobbiamo... 5 pezzi in due? Sì. In 2 ore e mezzo siamo qui, adesso un aperitivo, una cena e si dorme. No, e si sveglia a Roma. Gli argomenti dei 5 articoli quali erano? Erano Grant Thomas, il suo compleanno, la sofferenza che ha fatto oggi, Pogacar, che è Pellizzari, che aveva apprezzato come il nuovo idolo dei tifosi italiani, forse, giusto? Sì, io mi sono commosso. E Ben O'Connor, che all'inizio è scappato perché sta male, c'è una tosse, però poi ci hanno mandato un piccolo video dove raccontava la gara, la loro gara, perché hanno vinto lui quarto in classifica, team classification e 2 tappe, quindi questo. In questa giornata in cui abbiamo saccheggiato il buffet, abbiamo tutte le bottiglie aperte del buffet in furgone, ma siamo venuti comunque a berci un bicchierino a bordo di questo treno. Treno turistico, dove ho scoperto aver avuto una cuccetta, ma non di quelle buone, tipo... Ah, sei stato declassato. Terza classe. Però in compenso c'è il bar aperto tutta la notte, quindi le premesse sono... Io fossi in te non andrei neanche alla cuccetta. Sai cosa succede quando si apre una bottiglia? Cosa succede? Si plana, si apre e si plana, ovvio. Va bene, comincio a essere un po' preoccupato dal fatto che Pelacci deve guidare adesso fino a Mogliano Veneto e portarmi sano e salvo mentre io monto questa puntata o quella di ieri, non so quando lo inseriamo. Quanto ci si mette per Mogliano Veneto di qua? Non si sa. Con Pelacci alla guida è sempre un'avventura. Faremo scalo a Traversetolo e poi arriveremo a Mogliano. Traversedel, mi manchi. Domani sei a Traversetolo. Dici 2 parole di contentezza per il tuo arrivo a Traversetolo. I miei amici mi mancano parecchio e comunque, cioè, è bello tornare a casa dopo un giro, però sai chi ci sarà a casa a aspettarmi? Nessuno, sono tutti via. Meno male cazzo. Che ci sarò io con te. Oh, ragazzi. Che bene, che benessere. Per concludere, diciamo, il disallestimento di questo Giro d'Italia. Ma scusa, torni a casa lunedì o martedì quando sarà? A chi racconti? No, domani, non prendiamo domani. Giorni extra. Secondo me domani non ce la fa ad arrivare a casa. Però, quando sarà? Con chi parli? Perché hai parlato continuamente in queste 3 settimane. Avrai bisogno di come dire, sfogarti con qualcuno. Chi sarà la vittima di questo effluvio di parole? Boh, non lo so. Risposta boh. Sì, non lo so. Forse... manderò vocali a voi due, manderò vocali, no, non grazie, lo so. No, mandali nei gruppi Telegram. Essendo tu l'uomo del momento con fan club che ti acclamano, io spero che all'arrivo a Traversetolo sia tipo Domenica delle Palme, cioè palloncini, gente che ti aspetta. Posso, è realistica come ricostruzione? Ma pure via più, bro, 1 milione di persone mi aspettano, 1 milione. Non ho capito la prima cosa. Come a Roma, 1 milione, pure di più di... Ah, pure di qualche... più? Sì, pure di più. Poi lo sai la Domenica delle Palme da cosa fu seguita? Sì. No. Dalla passione di Cristo. Non un evento esattamente. O poi c'è anche la risurrezione, però comunque bisogna passare attraverso. Vabbè, adesso Pelacci l'abbiamo già lodato a sufficienza, non lo innalzerei a questi livelli. Vabbè, andiamo, scendiamo da questo treno prima di essere portati via. Va bene, ci salutiamo. Si è aperta la porta e ci sentiamo domani. No, non so adesso questo audio che fine vedremo, fa. Se... Noi ci risentiremo. Quest'audio sicuramente adesso ci capiremo. Sentiamo e quest'audio forse un giorno lo ascolterete anche voi. Ieri sera siamo tornati abbastanza tardi, dopo l'intermezzo ferroviario, e quindi non ci siamo molto guardati intorno su dove eravamo. Sapevamo che saremmo andati in un posto particolare a dormire. Noi, quando riusciamo, l'avrete capito già altre volte in questo podcast, cerchiamo di andare a conoscere i bike hotel, ovvero quelle strutture alberghiere che strizzano l'occhio, se vogliamo, al cicloturismo, al turismo con la bicicletta. E ieri sera, lungo la strada, ci veniva comodo, ci siamo fermati a Mogliano Veneto. E così ieri sera siamo arrivati in questa villa, in questa grande casa, se vogliamo, anzi sono tre case, che si chiama The Foscarini. Ed è una struttura alberghiera particolare, così stamattina ho lasciato Pelacci farsi un'indigestione di fette biscottate, di pane marmellate, sono uscito a farmi un giro in questo giardino splendido, ma anche all'interno delle stanze di questa villa, perché è un albergo strano, perché così, guardandomi intorno, mi sembra quasi di essere più in casa di qualcuno. È un albergo in cui ci sono le stanze, ma ci sono anche dei salotti, degli spazi anche dove stare seduti, a rilassarsi, a bere, e tutto questo dentro a una villa del 1600. Ha già qualcosa di affascinante, di particolarmente accogliente questo spazio, ma la cosa che più mi ha stupito è stata parlare con Jacopo, che è la persona che ci ha messo in contatto, ci ha aperto le porte di questo luogo, che ci ha raccontato di come questo luogo sia nato strizzando l'occhio a qualcosa che forse, come ben sappiamo, troppo spesso il turismo snobba, che è la sostenibilità, ristrutturando interamente questa villa in modo che fosse alimentata esclusivamente a pannelli solari, in modo che ci fosse e c'è un sistema di riciclo dell'acqua piovana che permette di mantenere il giardino. E poi dicevamo, in nome del cicloturismo, di un cicloturismo sicuramente che ama godersi il suo agio quando si scende dalla bicicletta, però è una struttura che, oltre a mettere a disposizione chiaramente una stanza dove tenere al sicuro le biciclette, ha uno spazio di ciclomeccanica e soprattutto ha questa cosa che ci ha entusiasmato, che è l'idropulitrice, per cui si può lavarsi la bicicletta, che non è male come opzione. Purtroppo non sono riuscito a convincere Pelacci a lavare la sua bicicletta. È stata una bella sorpresa scoprire questo spazio. È uno spazio in cui tornare, anche perché è abbastanza così un bel crocevia anche di pedalate. C'è una lunga spiegazione che si trova nelle stanze, le pedalate che si possono fare qua intorno, anche molto lunghe, anche arrivare alle Dolomiti, sono più di 220 km se non sbaglio. E c'è la mitica strada del Radicchio, che abbiamo già citato in questo Giro d'Italia, e ci piace concludere anche il nostro Giro d'Italia riprendendo la strada del Radicchio. E dunque niente, abbiamo capito che se ripassiamo qua in zona, soprattutto se ci si passa viaggiando in bicicletta, cosa che io non faccio abitualmente, ma non si sa mai, magari mi viene la voglia, ripassiamo anche da di qua, dal Foscarini. E da qui ripartiamo per un altro giro, questa volta ai noi in furgone, e il nostro viaggio va verso la sua destinazione finale. Come avete sentito, a Mogliano siamo stati particolarmente bene, io e Kautz eravamo particolarmente molleggiati, polleggiati, rilassati. Un po' dispiacere che fosse finito il kebab veneto, che era il kebab con radicchio e la scamorza. Però, incredibile. Abbiamo mangiato il kebab italiano. Ma ora lasciamo la parola per diverso tempo a Marta, la quale forse, sapendo che in America si stanno giocando i playoff NBA, innamorata anche lei degli americani, continua, pur anche? Avendo... Sì, anche. Ma si starà facendo altre cose in America, non so. Sì, sicuramente. Okay. L'America si ferma un giorno solo, che è quando c'è il Super Bowl. Io questo ho letto dai giornali, per cui non è ferma. E Marta ha intervistato un infante del paese americano, Larry Warbus. Intervista lunga, ma Marta è molto contenta di ciò che ha fatto. Bellissima intervista. Avvenuta, ricordiamolo, a Livigno, l'ultimo certo. Giorno di riposo, per cui un'intervista di qualche giorno fa, ma che spazia talmente tanto nei temi che così non riguarda più l'attualità, anche perché il Giro d'Italia è finito, non c'è l'attualità del Giro d'Italia. Siamo contenti di farvela sentire. Parola a Marta. Ero un po' emozionata quando ho incontrato Larry Warbus nella hall del suo albergo, perché sapevo che avrei incontrato una persona interessante, di spessore. Quindi ho iniziato questa chiacchierata dicendogli che sapevo che sarebbe stata più che altro una chiacchierata tra colleghi, visto che avevamo qualcosa in comune, perché io ovviamente purtroppo faccio schifo in bici, ma lui invece è un ottimo giornalista. Quindi gli ho chiesto se ultimamente, magari al giro, avesse scritto qualcosa. No, I haven't actually. I thought about it. I think I should. Maybe I will. Yeah, I thought I should start riding again, but I haven't really gotten the motivation lately. Maybe you have more motivation on the bike now? Yeah, maybe. We'll see. I think also this last week we'll have some experiences that'll maybe motivate me to do some riding. Mi ha risposto che no, in realtà ultimamente non ha scritto nulla, che pensa sempre che dovrebbe farlo, ma non ha avuto la motivazione giusta. E allora forse gli ho detto: hai più motivazione in bici in questo momento? E ridendo mi ha risposto che magari le esperienze dell'ultima settimana lo avrebbero stimolato a riprendere la scrittura, e questo lo vedremo poi. Abbiamo poi parlato di vittorie di tappa. Gli dicevo che ce ne sono alcune davvero speciali con dei tratti comuni, che ricordo la sua vittoria in fuga nel 2017 al Tour de Suisse, e quindi le dichiarazioni di Cavendish, tutti in gruppo erano felici. Allo stesso modo al giro abbiamo visto Valentin Parepentre vincere e anche Alaphilippe, ed è stata un'emozione per tutto il peloton. Gli ho chiesto quindi come mai. I think, you know, I think when you see some guys in the peloton who are always fighting and they're always kind of giving their all and it doesn't work out, you can kind of relate. And even if Julian Alaphilippe, he's a huge champion, he's won all the biggest races, you know, he's won so many races in his career. I think everyone can understand the pressure, and you know, then he had the pressure from his team manager talking in the press, and everyone was saying, oh, you know, this guy, he's finished. And I think everyone loves to see the comeback story. You know, they love to see when he can actually come back and show, you know, his true colors. And I think that's why, you know, everyone liked to see that. And you know, I think Valentin also, character, he's a nice guy, but he's always fighting, and you know, he's always been giving is all you see this whole year, all the times that he really helped Ben O'Connor either win the race, so for him to get his own chance, that was really nice. Credo che quando vedi dei ragazzi che combattono, ci provano sempre, che danno tutto e non va, ti identifichi. E anche se Julian Alaphilippe è un grande campione, ha vinto le gare più importanti, credo che tutti capissero la pressione del team manager che parlava con la stampa, tutti che dicevano che era finito. E quindi tutti amano le storie di rivalsa, amano vedere tornare alla vittoria mostrando la sua vera essenza. Anche Valentino, un bravissimo ragazzo, ce la mette tutta, ha dato tutto per aiutare Ben O'Connor a vincere, ed è stato quindi bello vedere che abbia avuto la sua chance. E qui gli ho ricordato che è stato tutto merito di Kautz e che per una modica cifra potevamo prestarlo alla squadra. Abbiamo poi parlato dell'arte della fuga. Avevo letto che diceva che alla fine si trovano sempre le stesse persone in fuga. Ma quindi gli ho detto, è come un reverse gruppetto? Com'è l'atmosfera? Yeah, I mean, I think it totally depends on the type of breakaway you're in. So, you know, if it's a big group or if it's a small group, you know, it can be different. But, you know, if you see, like, at the Giro, for example, or some other races, you know, a guy like Alessandro De Marchi, you know, he's always there. And so, yeah, it can depend. But if you're in a big group, the atmosphere oftentimes is worse than a small group. I think a small group, you almost are friends. You have to work together. Because if you want to make it to the line, everyone needs to commit. Everyone needs to work together. Whereas, like, if you're in a big group, for example, one of the other days, I think Aurelien was in a group of 30-something guys, and actually it's too many then, because then you're just in another peloton, you know, and everyone's racing against each other, and everyone, so then it's the opposite, it's fighting. So I think it really depends on the size of the breakaway and the type of the breakaway, and yeah, smaller groups are better usually. La sua risposta è stata interessante. Dipende tutto dal tipo di fuga in cui finisci. Che sia grande o piccolo, il gruppo fa una grande differenza. Al Giro, ad esempio, o in altre gare c'è sempre De Marchi. Ma se invece è una grande fuga, l'atmosfera può essere peggiore. In un gruppetto si è come tra amici e devi lavorare insieme se vuoi arrivare al traguardo, impegnarti. Se è una fuga numerosa, come quella in cui era l'altro giorno Aurelien, di quasi 30 persone, è come un altro peloton, è il contrario, sei in competizione. Quindi dipende dalle volte, ma direi che di solito una fuga più piccola è meglio. Abbiamo parlato poi dei grandi cambiamenti che ci sono stati nella squadra, nella Jet Desert nell'ultimo anno, ma anche del fatto che avere un capitano che fa classifica è una grande differenza, e gli ho chiesto se questo gli desse una motivazione in più. Yeah, 100%. It's been really, really nice this year, you know. I mean, the only hard thing is then, yeah, I don't get to go on the breakaway, but you know, that's how it goes sometimes. And yeah, it's been really cool because it really gives us, you know, a sense of purpose in the race, and it's a big motivation because, you know, for us here, we really believe that Ben, he's capable of being on the podium. You know, it's exciting to get to fight for that because it's not many times in your career or your life that you get to be a part of, a fight for the podium in a Grand Tour. And especially for our team, it's been a really long time since that's happened. Sì, mi ha detto, è molto bello. L'unico lato negativo è che non posso andare in fuga, ma succede. Mi ha detto, testuali parole, è stato figo, ci ha dato un obiettivo e uno scopo vero nella corsa, perché noi veramente crediamo che Ben possa salire sul podio, che sia uno dei tre migliori, ed è eccitante combattere per questo, perché non capita spesso nella carriera di essere parte della lotta per il podio in un grande giro, e soprattutto per il nostro team non succedeva da parecchio tempo. Ora, ahimè, noi sappiamo che sul podio non c'è finito, ma è stata comunque una bella corsa. La domanda successiva era piuttosto complessa, sui cambiamenti del ciclismo moderno rispetto al suo esordio e quindi sulla sua voglia di evolversi e ricercare se questo aspetto riesca ancora a non farla annoiare. Qui vi riassumerò io la sua risposta perché è molto articolata, e diciamo che mi ha raccontato che personalmente ha sempre cercato, è un po' geek in questo senso, ha sempre cercato di ottenere tutti i vantaggi possibili, e dal punto di vista tecnologico pensa di essere sempre stato attento, già molto consapevole sin dai suoi esordi, perché persino da under 23 aveva speso tutti i suoi soldi per andare a fare i test di posizione nella Galleria del Vento, e anche con la BMC quando è passato professionista c'era molta attenzione a tutte alle tute, ai dettagli. Quindi a questo punto di vista scientifico, mentre la nutrizione, tutta la parte dell'alimentazione è qualcosa di più nuovo, diciamo, e che secondo lui, diciamo, lui ha iniziato a curarlo particolarmente nel 2019, quando sono usciti tutta una serie di articoli scientifici, di dati, e lui si è reso conto che c'erano appunto questi dati e che quindi hanno iniziato a fare questo cambiamento di mangiare circa 120 grammi di carboidrati all'ora, come fanno molte squadre adesso, e che questo ha fatto davvero una grande differenza, e che quindi negli ultimi 3 anni è diventato un punto molto importante, che tutte le squadre curano la nutrizione, quindi l'alimentazione dal punto di vista personalizzato, che hanno il loro cuoco, hanno tutti un piano da seguire. E poi appunto abbiamo riso dicendo che tutti mangiano pasta come dei pazzi, e gli ho detto, diciamo, mi ci identifico non dal punto di vista sportivo, e mi ha detto che appunto è un aspetto che porta però davvero a molti progressi. Abbiamo concluso poi questa rassegna con un punto sulla salute mentale. Questo è un aspetto davvero interessante. Mi ha detto che quando era giovane ha iniziato ad esplorare questo aspetto e a lavorare con uno psicologo sportivo, con un mental coach, poi ha fatto diversi cambiamenti, e nel 2016 ne ha trovato uno che per lui era veramente giusto, che funzionava bene, e crede che sia stato un punto di svolta nella sua carriera, che senza questo aiuto non sarebbe riuscito a vincere al Tour de Suisse o a diventare campione nazionale. Ci ha detto poi che crede che questo aspetto sia ancora sottostimato nello sport e che ci siano ancora molti progressi che si possono fare in questo settore, e che comunque sì, lui ama davvero molto esplorare cose nuove, e forse questo lo mantiene per lui tutto fresco e interessante. Gli ho poi chiesto, Larry, qual è il tuo rapporto con i fan italiani, perché so che hai un piccolo fan club in Piemonte. Yeah, no, it's been really nice, you know, Ivano Garelli, he started this, and so that's pretty cool. So that's, it's nice when you come to the start and you have some fans, so, but no, it's been really nice even during this Giro, you hear your name on the roadside, and that's really cool. So I think now, yeah, it's my 6th Giro, so yeah, I've done quite a lot of racing in Italy, and not just the Giro, but you know, Tirreno, Milano Sanremo, and all these races. And yeah, it's a country that I love. I always love to spend time here. So I live in Nice, not very far from Italy. I love riding to Italy during a lot of training rides and going for the weekend. And so I think I just have, I don't know, my first year pro, I lived in Italy. I lived in Quarata in Tuscany. And yeah, I think I just have sort of like a connection to Italy, and I really, yeah, I love the people, I love the culture, I love the food, and it's just a nice place to come. And ha riso subito, appunto, ha detto che è veramente carino che Ivano Grelli, il mio amico Ivano, abbia iniziato questo, abbia fondato questo piccolo club, e che lui cioè vede proprio sulle strade, sente urlare il suo nome, e questo è veramente figo, che lui ha fatto, cioè ha corso tanto in Italia, quindi anche alla Tirreno, alla Milano Sanremo, che lui passa molto tempo anche allenandosi in Italia, visto che vive a Nizza, e gli piace venirci durante i weekend, gli piace tutto dell'Italia, le solite cose, insomma la cultura, il cibo, che quindi pensa di avere un rapporto privilegiato con l'Italia e con i suoi fan. Alla fine ho chiuso questa splendida chiacchierata con la domanda bomba, chiedendogli: quindi cosa vuoi fare da grande? When I grow up, yeah, I like that question. That's cool. I think I actually would like to stay in the sport of cycling. So I'm really passionate about the sport. Right after my career, I'd probably like to work in a team. I would say one thing I'd really like to do would be maybe a trainer or performance director. A lot of the riders in the team, they call me the rider performance director, mm-hmm. because I'm really interested in all the science and all these things, and so they're always asking me questions about you know, equipment and nutrition and things like that. But yeah, I think I really like helping people, and I think I'd really get a lot out of seeing others achieve their best, you know, I think that would be really cool. Larry ha detto che gli piacerebbe rimanere nel ciclismo perché lo ama moltissimo, e lavorare con una squadra alla fine della sua carriera, magari come trainer o come performance director, visto che i suoi compagni già lo chiamano il performance director dei corridori, perché si interessa di tutto l'aspetto scientifico, e quindi gli fanno un sacco di domande sull'equipaggiamento, sull'alimentazione, che comunque gli piace aiutare le persone, e per lui il massimo è vedere gli altri raggiungere i loro obiettivi. Ma alla fine mi ha detto che proprio il suo vero sogno sarebbe quello di avere una squadra pro americana, ma in Europa, come la Ineos ad esempio, perché mi ha detto che ad esempio Mr. G non avrebbe forse vinto il tour senza la Ineos. E quindi lui vede molti talenti americani che si perdono, molti che si bruciano troppo presto, e vorrebbe potergli dare un contesto sicuro in cui crescere come ciclisti e corridori, e in cui raggiungere il loro pieno potenziale, perché lui pensa di non aver avuto del tutto questo vantaggio. Ha detto che in America hanno un sacco di talenti, e che se lui potesse facilitare questa transizione dal mondo dei professionisti, per lui sarebbe un vero sogno, sarebbe quello che vuole fare da grande. Ci siamo salutati, è inutile dire che io ero perdutamente innamorata. Bene, bene, dai, di corsa, navighiamo di gran lena verso la seconda ora di questo podcast, anzi saremo già sicuramente anche alla seconda ora, non so se stiamo arrivando verso la terza, forse ci arriveremo. Andiamo un attimo in conclusione, facciamo un bilancio finale di questo Giro d'Italia, e io ti direi, Michele, facciamo finta che sia una sorpresa, poi adesso mettiamo degli audio preregistrati e quindi è chiaro che stiamo fingendo. Però a giro, tutti e quattro i componenti, la redazione di Gironimo, elenchiamo i nostri momenti preferiti di questo giro. Comincio io? Se vuoi, se no comincio io. Il mio preferito, anche per il significato, diciamo, da 0 a 1000 che ha avuto, è stata la tappa di Selva di Valgardena, il Monte Pana. Perché ricordiamo come partì, no, quella tappa, con la cancellazione dello Stelvio, ridotto prima un Braille Pass e poi tirato via, e poi fare il tunnel e comprare la vignetta. Vignetta abbiamo comprato, possiamo dirlo? Abbiamo comprata con... comprata online. Online alle 9 di mattina con Leonardo Piccione, che dalla sera prima chiedeva: e allora sta vignetta? E allora sta vignetta? E l'abbiamo comprata. Ci ricordava che... Perché c'è stato un servizio veramente utile del Giro d'Italia, che fa tante cose utili, poi viene criticato, quel giorno lì è stato criticato tantissimo. Ma l'ufficio stampa del Giro d'Italia, penso Valerio Bianco, non so che, ha mandato una mail a tutti gli accreditati ricordandogli di comprare la vignetta per non stare fermi in coda. È stato... Grazie del servizio. Fantastico, però poi abbiamo preso quel giorno la pioggia tantissima, la neve, c'era freddo, eccetera. arriviamo finalmente al Monte Pana, bellissimo finale di tappa con Giulio Pellizzari all'attacco, con la Movistar che fa la Movistar, con Tadej Pogacar che alla fine vince e soprattutto Filippo con la seggiovia. Per quello l'hai scelto. Esatto, fantastico momento per me che non dimenticherò mai. Cari Geronimo Ers, è tempo di bilanci anche per me. Detto che faccio molta fatica a fare dei bilanci, mi sento un po' come la notte degli Oscar, dove vorrei ringraziare chiunque per avermi accompagnato fino qui, per avercela fatta. Insomma, diciamo che essendomi approcciata con l'entusiasmo da zero a pelacci, in scala da zero a pelacci, pelacci più, e per essere una che riesce a urlare, ad applaudire anche quando è seduta sul divano, diciamo che per me il bilancio è stato comunque estremamente positivo. Sono veramente felice di avere constatato come anche in un giro tutto sommato appunto già chiamato in qualche modo, ho visto fiorire le storie più incredibili e non mi sono mai stufata un secondo di parlarne ogni giorno H24. E quello, se devo scegliere, diciamo, una tappa e un momento, innanzitutto vi devo dire che le tappe sono due, che le metto più o meno sullo stesso piano per il tipo di svolgimento, di tipo di reazione che mi hanno suscitato. Sono sicuramente la tappa di Europa e l'arrivo sul Mottolino, perché per me sono state, cioè, proprio l'iconicità, quella che immaginavo fin da bambina, e quella che vedo ogni tanto, e le persone sulle salite, il rito collettivo, la condivisione, e infatti sono in realtà le due tappe in cui sono riuscita anche a vedere proprio gli arrivi di persona. E io in quei due momenti, in quelle due tappe, ho avuto veramente la sensazione di essere insieme ad altre persone al cospetto della storia dello sport. E quello, ho detto, cavolo, potrò dire che ho visto Tadej vincere a Europa, potrò dire di avere visto questa cosa incredibile, ma se devo... E questo fa parte anche poi del mio momento preferito, che in realtà è un momento che mi ha emozionato tantissimo, perché quello che sono venuta in qualche modo a cercare al giro era quella assenza di barriere anche emotive, quella proprio poter toccare l'emozione con mano, che mi hanno raccontato essere anche motivo della scelta spesso di chi fa il mestiere del massaggiatore. E ovviamente per me il momento più emozionante, l'ho già raccontato in lungo e in largo, è stato a Fano, è stato vedere il successo della cavalcata romantica di Alaphilippe e del suo fido scudiero Maestri. Per me è stato un momento davvero, cioè, inaspettatamente emozionante, nel senso che mi guardavo intorno e le altre persone ovviamente erano più o meno contente, ma a me tremavano le gambe ed ero proprio commossa. Forse mi sono proprio immedesimata, e quando ho visto questo atleta arrivare, e la sincerità, la gioia negli occhi, proprio infantile quasi, e come si è approcciato a Maestri e come ha risposto alle domande in conferenza stampa, proprio senza, come se tenesse il cuore in mano, per me è stato, devo dire, molto speciale. Beh, sicuramente la fuga tra Lulu e Maestri va in altissimo nella graduatoria delle cose più belle vissute, perché poi anche se non eravamo noi a pedalare l'abbiamo vissuta a questo Giro d'Italia, anche molto da vicino al termine, quell'incontro a fine gara è stato strepitoso. Io se dovessi, faccio fatica a scegliere una giornata così, che per me perché memorabili sono tante, preferita... Non lo so, io pensavo di dire Napoli, ma mi sa che sono 3 anni che dico Napoli. Ci sarà un motivo, non lo so, è stata bellissima la tappa di Napoli, bellissimo il percorso, finale, magnifico. Va bene, saltiamo Napoli, anche perché sono obbligato a scegliere la mia giornata preferita in questo giro, che è quella dopo Napoli, non il giorno di riposo, sempre bellissimo, unico bagno di questo Giro d'Italia, ma la tappa 10. Da Pompei a Cusano Mutri, Bocca della Selva, o come diciamo noi in furgone, Bocca di Mutri, per sintetizzare, che è stata la tappa vinta da Petit Valentino da Valentin Parepantre, e chi ha ascoltato per intero questo podcast, non le due ore di questa puntata ma tutte quelle che l'hanno preceduto, forse si ricorda che quel giorno io ero seduto nell'ammiraglia della Decathlon Jeux des Arts, che stava subito dietro i battistrada e quindi subito dietro a Valentin Parepantre, e insomma, veder vincere una corsa dall'ammiraglia, stando dentro la corsa dall'ammiraglia della squadra che vince quella corsa, è qualcosa che non avrei mai pensato, nemmeno nei miei sogni più discutibili, di poter vivere. E mi piace doppiamente perché io ho scelto comunque un modo di vivere questo giro, rispetto forse ad altri che ho vissuto prima, che è stato quello di stare soprattutto in strada. Sono stato tantissimo, anche chiaramente la maggior parte del mio tempo, attaccato al computer con le cuffie, perché il nostro lavoro ci impone quello, per cui tanto nelle sale stampa, tanto in furgone. Però ecco, di vivere la strada, per esempio una cosa che ho deciso di fare è stato di limitare al minimo la mia attività sui social, di twittare cose così, al di là di retweetare le puntate e mandare ogni tanto una foto, una cagatina, di staccarmi anche da quei supporti elettronici virtuali che ci staccano un po' dalla realtà. È una cosa banale, se vogliamo, ma è una cosa che a me l'ultimo anno ha dato molto, questo passo indietro, anche scegliendo di vivere più la campagna e di vivere più altri spazi della mia vita in cui la virtualizzazione entra meno, e anche dedicandomi meno alla tappa in TV. Devo dire che ho visto molto poco di questo Giro d'Italia di corsa. Ho cercato di stare tanto, più che potevo, sulla strada, e cosa c'è di più stare in strada che lo stare in ammiraglia a ridosso dei primi in classifica? Sarebbe ancora di più stare in bicicletta a ruota del primo in classifica, ma le mie gambe non me lo possono permettere, per cui è stata una ciliegina sulla torta di un giro che avevo deciso, che avrei voluto affrontare così, e come hanno detto tantissimi corridori intervistati nel corso di questo Giro d'Italia, no regrets, nessun rimpianto di questa scelta. Hai scelto una tappa bellissima dal punto di vista anche paesaggistico, forse anche la più remota e inaspettata per me. Ho scelto anch'io, abbiamo scelto in tre, ne manca uno, chiaramente Leonardo Piccione, che ci ha mandato il suo contributo da Roma, e già che era lì a Roma ha incontrato il nostro caro amico e amico, e soprattutto amico, più che collega, guarda, grande amico Ciro Scognamiglio, e quindi sentiamo la sua scelta, la sua chiamata, come direbbe Michele, e poi una breve chiacchierata con Ciro. Mio momento preferito, tappa preferita, direi la numero 5, la Genova-Lucca, quella in cui il quartetto in fuga ha avuto la meglio sul gruppo, sulle squadre dei velocisti nello specifico. Quartetto composto da Benjamin Thomas, o Benjamin Thomas come preferite, Valgren, Pietro Bon e Paleni. Un capolavoro tattico, secondo me, proprio di Thomas nello specifico, che era andato a scegliersi i componenti della fuga quasi uno per uno, poi aveva lanciato l'attacco, coordinato i cambi da darsi da buon pistard, e appunto fatto in modo, scegliendo i tempi giusti, proprio tatticamente astuto, di far arrivare la fuga e poi di battere i suoi compagni di fuga in volata. Ho scelto quel giorno, quella tappa, intanto per la simpatia per quel corridore, ma non solo per Benjamin Thomas, ma anche perché è stato un caso, non ce ne sono stati tanti in questo giro, in cui non ha vinto il più forte. Ecco, la fuga ha battuto il più forte, i più forti, che erano i velocisti, le squadre dei velocisti, usando l'astuzia, la tattica, la furbizia, la strategia, e in un giro in cui invece più spesso ha prevalso la legge del più forte, cioè la netta superiorità di un individuo rispetto agli altri. Quindi questo episodio, secondo me, è significativo e mi è piaciuto, me lo ricorderò. Ma adesso io mi allontano un attimo, perché qui è arrivato una istituzione della sala stampa, inviato della Gazzetta dello Sport e anche nostro amico, possiamo dirlo, Ciro Scognamiglio. Come stai? Come no, è un onore. Bene, certo, istituzione mi dà l'idea che ormai sono vetusto quasi quanto i fori imperiali che abbiamo di fronte. Che sì, è il privilegio di avere di fronte. Sì, no. Quanti giri sono, Ciro, oggi? Ma finito. Guarda, meno di quelli che puoi pensare, almeno credo. Cioè, nel senso che da inviato sono, direi, 14. Se consideriamo quelli anche fatti al desk per la Gazzetta, 22. Vabbè, comincia a essere un numero interessante. Sì, sì, sì, è vero. Devo dirti che come al solito ho anche questo rito, nel senso che poi i vostri podcast li ascolterò tutti nel periodo di ferie, uno o due al giorno, quindi siamo prossimi, visto che mercoledì si parte per le vacanze in questo caso. Allora, questa era proprio una delle domande. La tua esperienza, cosa ci consiglia per rilassarci alla fine del giro? Cioè, cosa si fa il lunedì dopo il giro e poi tutta la settimana dopo? Purtroppo, o meglio, questa volta il lunedì dopo il giro è comunque come se fosse una tappa 22, almeno per quello che mi riguarda, perché ci sono degli impegni, diciamo così, tra istituzioni e sponsor, che ha la maglia rosa, che ha anche credo la maglia bianca Tiberi, quindi io anche lunedì sarò legato a questo, poi martedì un altro giorno in servizio in redazione per le vacanze. Ma guarda, io allora secondo me una cosa da fare, a prescindere dalle preferenze che ha ognuno di noi, perché c'è chi ci rilassa al mare, chi in montagna, chi in campagna, chi in città, quindi io su quello sì, io ho le mie idee, come credo che chi mi conosce bene sappia, cioè nel senso io sono uno da mare, ma più che questo, secondo me, la prima cosa da fare è staccarsi un po' dai dispositivi elettronici, dal cellulare. Cioè, è un'esigenza che io sento, perché in una grande corsa come il Giro, ma capita anche al Tour naturalmente, o alle grandi corse che durano un po' di meno, veramente ormai, penso anche tu Leonardo, siamo quasi sempre collegati per conoscere le notizie, per sentire le fonti che ci devono dire delle cose, per essere informati sulla corsa e sul dopo corsa. Quindi io, la mia prima esigenza è veramente far calare in maniera sostanziale il tempo di utilizzo dello smartphone. Ottimo suggerimento. Non hai l'esigenza verso le 4 del pomeriggio di andare in mezzo alla strada sotto un gazebo a cercare, che è il luogo in cui ci incontriamo spesso per intervistare i corridori o guardare l'arrivo? No. Diciamo che mi sembra un po' strano, più che altro, non svegliarmi al mattino e non pormi il problema del percorso alternativo o del percorso della tappa che devo fare per raggiungere magari l'arrivo, o prima ancora dall'albergo la partenza, dalla partenza all'arrivo e poi dall'arrivo all'albergo della sera. Ecco, mi destabilizza più questo. Senza avere il Giro E davanti. È meglio, nel senso che il Giro E è una bellissima iniziativa che in effetti poi a noi ogni tanto crea qualche problema di viabilità. Peraltro devo dire che la mia media è stata buona in tal senso, nel senso credo di averlo incrociato 2 volte su 21, quindi non mi posso lamentare. Anche noi ci stiamo migliorando col tempo. Invece, passando al Giro rapidamente, tu ti fai hai una classifica dei tuoi giri preferiti, quando hai finito, questo come si piazza, dove lo metti tra i migliori, i medi, i peggiori? Abbastanza bene. E beh, tra quelli che ho seguito da inviato, guarda, io sceglierei il secondo giro di Nibali, perché comunque è stato emozionante vedere quella rimonta alla quale io non credevo. Poi quando vinse a Risul, sì, cioè pensavo che poi verso Sant'Anna di Vinadio avrebbe completato la rimonta, però prima di Risul no. E quindi quello lo metto come primo, istintivamente. Questo abbastanza bene. È vero che non c'è stata l'incertezza per la maglia rosa, però io ho notato che ci sono state tappe più mosse fin dall'inizio. Ho notato che comunque ci sono stati segnali di rinascita del ciclismo italiano, non uno solo, perché da Ganna a Milan, da Tiberi a Vendrame, senza dimenticare anzi Pellizzari. E poi ci sono stati dei gesti bellissimi, questo sì. Ovviamente faccio riferimento soprattutto, hanno avuto entrambi come protagonista Tadej Pogačar, e faccio riferimento sicuramente quando ha regalato occhiali e maglia rosa a Pellizzari, forse ancora di più quando ha regalato la borraccia al bimbo sul Monte Grappa. Quelli secondo me sono gesti iconici che rimangono, no, nella storia del Giro. Sì. E ne hai anche la percezione immediata, cioè per esempio, sempre pensando a Pogačar, ti ricordi quando al Tour del 2022 cadde, Vingegaard lo aspettò e ci fu la stretta di mano, e lì ci fu subito la sensazione di dire, beh, di questo ce lo ricorderemo, questo resta fissato. Per me questi due gesti sono così, quindi bello. Ultimissima cosa, dalla tua postazione privilegiata, insomma, di inviato del maggiore quotidiano sportivo italiano, questo giro così senza trama, abbiamo detto, senza lotta, suspense per la maglia rosa, ha avuto un impatto? È stato seguito di più o di meno, o come al solito, dalle persone che leggono, che poi anche sono anche sulle strade? No, noi abbiamo notato un interesse maggiore. Per esempio, ora senza entrare nel dettaglio delle cifre, però abbiamo notato che la domenica della tappa di Livigno-Mottolino, il dato ufficiale riguardo il nostro sito gazzetta.it, il dato ufficiale del live della tappa ha superato i contatti del live del Gran Premio di Formula 1 di Imola. Certo, ovviamente non stiamo parlando della stessa durata dell'evento, ovviamente la tappa, quella è stata una tappa che è durata più di 6 ore, però allo stesso tempo è comunque un dato molto significativo, perché il Gran Premio di Imola è uno dei Gran Premi più importanti dell'anno. E noi abbiamo notato che l'interesse per Tadej Pogacar c'è stato. Poi è dall'inizio dell'anno che si sta parlando del suo tentativo della doppietta con il Tour. Adesso abbiamo raggiunto la fine del primo tempo, se ne parlerà quindi ancora, quindi anche in questo senso il bilancio è positivo. Va bene Ciro, grazie mille per questa chiacchierata, per queste 3 settimane che abbiamo condiviso insieme, e ci diamo appuntamento o in Islanda quando decidi di fare un viaggio al nord, magari. Magari sì, io lo preferirei, cioè se tu mi dici diamoci appuntamento al prossimo giro o diamoci appuntamento in Islanda, preferisco il secondo, vediamo. Va bene, allora non diciamo dove, ma ci vediamo prossimamente e sarà come sempre un piacere. Ciao Ciro, grazie. Grazie a voi, un piacere anche per me. Filippo, io ero abituato a conoscere Ciro come un uomo, no, di Torre del Greco, molto affezionato al caldo, al mare. E sai che cosa ho inventato adesso? Mm-hmm. Per parlare di questa sua strana infatuazione islandese? Sì, ma io non ci credo neanche se lo vedo, questa sua infatuazione islandese. Ho cucinato un veloce acrostico. Sì. Così? Sì. Pam pam pam. Così? Pim pum pam. Acrostico di Ciro, sì, ovviamente. Eccolo qua. Non di Scognamiglio. Hai capito perché? Ciro islandese? Punto di domanda. Roba oscena. No dai, oscena no, oscena assolutamente no. Però sarebbe sicuramente qualcosa di scioccante. Beh, vedo che comunque sta imparando gli acrostici. Hai visto? Eh? Perché ho imparato da un maestro, Leonardo Piccione, che con gli acrostici ci ha deliziato per 21 tappe, ecco l'ultimo. Eccomi qui per l'ultimo intervento dalla sala della Protomoteca a Roma, sempre dall'esterno della sala, sempre coi fori imperiali di fronte a me, sempre coi gabbiani attorno. È quasi buio, sono le 20:45 e Tadej Pogacar è andato via da poco da qui. C'è stata la sua conferenza stampa, l'ultima finalmente conferenza stampa per lui, che era davvero provato questa sera, sicuramente dalle 3 settimane di fatica, ma anche se non soprattutto dalle cerimonie, dal protocollo che ha seguito l'arrivo qui a Roma oggi. Ci ha confermato invece la teoria che noi, come altri addetti ai lavori, avevamo avanzato in queste settimane, cioè che questo giro abbia rappresentato per Tadej Pogacar una crescita dal punto di vista umano. E lui ha detto sì, forse è vero, qualcosa è dentro di me dal punto di vista della consapevolezza, della maturazione di uomo è cambiata, è avvenuta. E ci conforta insomma che sia successo e che ci siamo accorti di questo cambiamento in atto. Vedremo come evolverà questo personaggio così unico nel panorama ciclistico e non solo. Io gli ho fatto una domanda un po', diciamo, fuori dall'ambito ciclistico, e gli ho chiesto se uno come lui, che sembra non aver paura mai di nulla, fuori dal ciclismo, quindi nel mondo, ha paura di qualcosa. E a questo Tadej ha detto, non ha risposto, ha detto sono troppo stanco, e questa è una domanda troppo difficile per rispondere adesso. Ma va bene così, è stato, poi c'è stato il solito applauso di rito che si dedica, che la sala stampa dedica al vincitore del giro, e le foto qui all'esterno. Io sono quasi pronto ormai ad accogliere, ad accettare il consiglio ricevuto da Martin Marcellusi, quindi ad andare da Tonnarello, ma Prima di tutto questo, non mi sono dimenticato nemmeno oggi dell'acrostico, questo giochino che per tutto il giro ho proposto con alterne fortune a inizio puntata. Oggi l'ho tenuto per la fine della puntata perché è slegato da quello che abbiamo visto oggi in corsa e perché vuole essere un saluto e anche un po' un augurio per voi compagni di viaggio e per tutti gli ascoltatori di Gironimo che hanno fatto questo viaggio insieme a noi ascoltandoci. E dopo 3 settimane il rischio, se vogliamo, è che le memorie dei luoghi, delle persone, degli incontri fatti un po' si sovrappongano, tra loro si mischino, perdano la loro unicità. E invece secondo me dobbiamo cercare di preservare l'irripetibilità di questo viaggio e in generale dei viaggi che facciamo, delle persone che incontriamo, dei luoghi che visitiamo. Quindi Roma diventa ricordiamo ogni momento, amici. Con questo vi saluto e ci sentiamo, spero, presto. Alla prossima e grazie. Ricorderemo qualcosa, ogni momento, personalmente anche no, però ne faccio volentieri meno e fortunatamente bevendo tanto alcol la mia memoria me la sto cancellando pian piano, ma qualcosa lo ricorderemo, ricorderemo tante cene che abbiamo saltato, una certa invidia per Leonardo Piccione che va da Tonnarello, noi se tutto va bene, Blue Istanbul in genere chiude alle 3 di notte, te lo consiglio, io ci vado molto spesso, cioè ti ci porto. Ma non solo la domenica, magari la domenica chiude prima, per cui non temporeggiamo troppo. Andiamo in conclusione, finalmente. Sì, anche se una conclusione è un nuovo inizio, da un certo punto di vista. Oh madonna, sì. Come? Io devo iniziare, per esempio, a segnarmi cose nuove, appuntamenti, il calendario va un po' riaperto. Tanti appuntamenti, tante cose da fare nelle prossime settimane, ci saranno. Io speravo di andare in campagna e mettermi a bordo piscina e rilassarmi e mangiare solo verdure, lo farò lo stesso. Intanto dobbiamo sbatterci, sento già dietro le orecchie la voce del capitano Davide Marta, perché dobbiamo chiudere il nuovo numero di Al Vento che chiude nei prossimi giorni, presto andrà in stampa, arriverà, ci sarà dentro chiaramente anche qualche contenuto da noi scritto riguardante il Giro d'Italia. Continuate a seguire Al Vento, continuate, comprate la rivista, abbonatevi, continuate a seguire sui social Al Vento, così come Bidon, così come Shimano, questo trittico che ha viaggiato lungo le strade del Giro d'Italia. Non dimenticatevi i libri di Al Vento, in particolare l'ultima volta che se n'è andato Pantani, che la nostra ultima uscita, un diario collettivo che raccoglie tante testimonianze, proprio come questo podcast in fondo, no? È una raccolta di tante voci diverse e che ha uno scopo che speriamo sia vicino, che è quello di dare una mano concreta alle persone che hanno subito i danni dell'alluvione in Romagna. Su Pantani vi do un piccolo calendario, è un po' lunghetto, perdonatemi, ma cerco di sintetizzare. Ci sono tanti appuntamenti, adesso andiamo, finito il giro, tiriamo il fiato e andiamo, ripartiamo a presentare questo diario collettivo. Il 28 maggio da Scavezzon a Mestre, il 30 Rossignoli a Milano, l'8 giugno sarò al Baladen di Cuneo, il 14 giugno al Barbotto in Romagna con le firme romagnole di questo libro. Il bar del Barbotto. Il bar del Barbotto, esattamente. Fantastico posto. Facciamo venire anche Pelacci in questa occasione. Il 16, domenica 16 pomeriggio a Chivasso, domenica 30 in occasione del passaggio del Tour de France a Torino con le firme invece piemontesi di questo libro. A queste date ne aggiungo due extra, perdonatemi. Sabato 15 giugno, per chi vuole venirmi a trovare in campagna, alla Campeggia di Costa Vescovato, Colli Tortonesi, comune confinante con Castellania Coppi, ci prepariamo al passaggio del Tour de France, parliamo di Tour de France io e Marco Pastonesi, ma parleremo di ciclismo in generale con un ospite straordinario che è Giuliano Calore. Sai chi è Giuliano Calore, Michele Pelacci? Julian Heath? No, Julian Heath è il record man di ciclismo bizzarro, detentore di diversi Guinness dei primati, tipo salire e scendere lo Stelvio con una bicicletta senza il manubrio. Come senza il manubrio? Senza il manubrio, bilanciandosi lui anche la discesa dello Stelvio a tutti i tornanti. Per cui ci racconterà alcune delle sue imprese, un modo diverso per parlare di ciclismo, sabato 15 giugno, se volete. E poi non c'è Leonardo, per cui possiamo dirlo, l'abbiamo taciuto per tutto il podcast, così non si intimidisce. Il nuovo libro di Leonardo, uscito subito prima del Giro d'Italia, si chiama Insegnare a nuotare a una foca. seguite i social di Leonardo perché sarà in giro anche lui nelle prossime settimane a presentare il suo libro. Sono due piccole segnalazioni che non riguardano al vento, non riguardano forse strettamente il tema di questo podcast. Questo podcast che tra una settimana più o meno cambia maglia, si toglie la maglia rosa, ma continua come Parole al Vento, come facciamo ormai da qualche anno. Dateci un attimo per tirare il fiato, ma non vi preoccupate, che Parole al Vento riparte, ricomincia tra una decina di giorni su per giù. Abbiamo un sacco di cose da fare, alcune anche con te, Michele Pelacci, per cui stai sul pezzo, preparati. Purtroppo non vado in vacanza. E non vai in vacanza, troverai il momento per andare in vacanza. Non lo so, cioè domani cosa fai, Michele? Ottima domanda. Magari pedalo. Finalmente pedalo un po' in pace, svegliandomi tardi al mattino. Intanto la tua bici è attraversato. Ecco, devo raggiungerla. Vuoi andare a pedalare con la mia bici? Ma penso sia un po' troppo alta per me. Più che altro c'è talmente tanta polvere sopra che sarà complicato. Però così, se vuoi me la pulisci anche. Puoi tornare a Mogliano, dagli un giro di idropulitrice e poi... E domani vai a pedalare, quindi. Questo è il tuo intento. Sai chi è arrivato in bici oggi a rilevare il nostro furgone? Chi? Cristian Bertolino. In bici è venuto addirittura. In bici, fantastico. Bravo. Noi di Al Vento facciamo più possibile le nostre cose in bici. E quindi cominciamo a ringraziare le persone di Al Vento che ci hanno accompagnato, aiutato, sostenuto in questo viaggio. Sono Cristian e Imma, sono Davide e Simona, gli editori. Sono French, sono Ale Autieri con la newsletter. È tutta la banda. Tutta la crew. Tutta la banda di Al Vento, come tutta la banda di Shimano, per cui Marco Cittadini, Veronica, Massimo, Federica che ha seguito la parte social, chiaramente Mitsu Hiro da Sendai, il responsabile della meccanica della sede di Shimano Italia a Pero, che si è prestato a trascorrere un pomeriggio con me, che lo interrogavo sul creare questo piccolo vocabolario giapponese. Mi sono divertito un sacco, grazie mille Mitsu. Un po' meno da est, diciamo un oriente meno estremo, viene il Mahatma di questo podcast, Gino Cervi, grandissimo ispiratore di ogni sillaba pronunciata dentro questo radiofonico esperimento. Mahatma, assolutamente. Sillabe pronunciate sono tante, ci hanno fatto ridere, ci accompagnano da anni. Angelo Trofa, Valentina Fadda, ovvero Batisfera Teatro, ovvero la voce, la mente, il cuore dietro al Bincio, dietro allo Shampoo, dietro a Franco, dietro a Inquietudini Rosa, a Giri, spero di essermene ricordati tutti, e vi vogliamo un sacco di bene. Vogliamo molto bene anche a Robert Spinazzè e Silvia Livoni Colombo, due amici del ciclismo, due amici nostri che ci hanno facilitato in tante trasferte, dobbiamo dirlo anche quest'anno. E poi c'è questa persona che dobbiamo ringraziare, ma io non ho ben capito chi sia. Luca Pedalini. Perché secondo me... Ancora non hai capito questo. È un cantautore che ha realizzato un disco che potete trovare su YouTube, ascoltare per intero, e ha tante cose che riguardano il ciclismo e il nostro podcast persino. Pensa come siamo in grado di ispirare qualcuno. Non so dire di più perché è... No, io nemmeno io, però ci tengo, perché poi Luca Pedalini non è che lo conosciamo, però invece conosciamo bene... E tutta questa cosa l'abbiamo fatta perché conosciamo il suo agente, il suo manager, che è Matteo Meggiolaro. Ringraziamo lui per averci così aperto le porte di casa di questo grande artista. Fantastico. Artisti a modo loro sono Valerio Bianco, Martina Centomo, tutte le persone che a RCS lavorano sodo dietro le quinte, tra la Transenna e un'altra di solito. Per portarci i corridori, passano anche dai buffet. Si fanno anche la loro bella vita. Grazie a loro. E artisti a modo loro sono tanti colleghi, tante voci che avete sentito in questo podcast. Ne ricordiamo alcuni, ma dovremmo ringraziarne veramente tanti. Però Stefano Rizzato, Daniel Fribe, Brian Nigard, Ciro Scognamiglio, che abbiamo sentito anche oggi, Enzo Vicennati e Filippo Lorenzon di bici.pro, Barry e Steven di Cycling News, anche loro li avete sentiti in questa puntata, Federico Guido che ci ha accompagnato nell'ultima settimana. E il Giro d'Italia è anche in un qualche modo un momento di rincontro di una piccola famiglia, che è quella di noi sbadati che abbiamo deciso di passare il tempo appresso al ciclismo. Un ringraziamento necessario, sentito e fortissimo va a Claudio Ruatti e Samuel Zueck, ovvero i nostri due così interlocutori di Brendan Soda, la società di Trento che ci aiuta, ci dà una mano a creare tutte le musiche, tutto quello che loro chiamerebbero sound design del podcast, e le musiche che piacciono molto, in tanti ci avete fatto i complimenti, ecco, i complimenti vanno a Claudio e a Samuel e i nostri ringraziamenti a loro. E con le persone incontrate strada facendo, per esempio quasi ogni tappa veramente, ascoltatori, vecchi amici, persone che seguono il ciclismo, hanno fermato il furgone, hanno fermato noi, all'arrivo ci hanno detto ehi, vi ascolto, ehi, siete quelli del podcast, ehi, bella magliettina. In genere gridavano pelacci! Possibile, però tanti, e il loro calore è stato fantastico. In particolare, se dobbiamo citare un gruppo, magari di ascoltatori, la ciclofficina Bincio, come sempre, i numeri uno. Sì, io se devo citare un gruppo cito chi ci ha portato le cornucopie, ma non è vero, ma il ringraziamento è per tutti quanti, cornucopia o non cornucopia. Il ringraziamento mio, ma credo condiviso tra tutti, è ai miei compagni di viaggio, con cui le cose non sono sempre facili, ma alla fine sono facili e sono belle, per cui Marta e Leonardo, che si spera ascolteranno queste 4 ore di podcast e arriveranno fino a qui per sentire il ringraziamento. A te Michele, Florindo, Callisto, Pelacci invece lo posso fare di persona. E basta, e ci rimettiamo in strada, sarà una strada più breve, ci rimettiamo a fare quello che facciamo ogni sera, che è montare questo podcast che noi realizziamo lavorando veramente tante ore, non sembra, ci divertiamo sicuramente, però ci svegliamo presto al mattino, nervosi, dobbiamo correre, dobbiamo andare a fare le interviste, poi dobbiamo buttarci sul percorso di tappa, stare attenti al giro E, stare attenti alla carovana, deviare per andare a intervistare quello che abbiamo visto che ci potrebbe ispirare, correre al quartier tappa, fare l'intervista all'arrivo, nel frattempo cercare di vedere la tappa e dopodiché metterci a registrare e dopodiché si inizia a montare. E io lo dico sempre, però il Giro d'Italia penso di aver fatto 3 cene senza aver avuto il computer sul tavolo e le cuffie sulle orecchie mentre la pizza si raffreddava, per cui insomma voleteci bene perché è un lavoro duro. Per questo ringraziamo te. Meglio che andare in fonderia, comunque lo ricordiamo certo. Sempre, però fatichiamo. Però per questo noi, parlo anche per Leonardo e Marta, ringraziamo te. Abbiamo l'ultima cosa, l'ultimo sì, regalo. Come sempre ci lasciamo con la voce barricata di Gino Cervi e ci risentiamo prima o poi, chissà. Ciao. Ed eccomi qui, il giro è finito, sta per finire, anch'io sto per finire il mio piccolo Tour d'Italie che in questi giorni mi ha portato in giro con Paul Fournel, che è un autore di Pagina al Vento. Abbiamo pubblicato lo scorso autunno il suo Io e la mia bicicletta, che è la traduzione dell'originale Besoin de Vélo, che lui ha scritto una 20ina d'anni fa. Paul Fournel è un signore davvero simpatico, ha una sua bella età, è più vicino agli 80 che ai 70, diciamo così, ed è uno scrittore importante, francese. In realtà poi è un grandissimo, fin da ragazzino, appassionato di bicicletta, ed è arrivato a scrivere di bicicletta nel momento in cui non poteva più farlo, e non poteva più farlo negli anni in cui venne mandato al Cairo, la città meno ciclabile del mondo, oltre credo quella tra le più inquinate. E si trovò improvvisamente nell'impossibilità di praticare la bicicletta come sempre fatto, e oltretutto di non poterla neanche praticare fuori dalla città, perché fuori dalla città, come sapete, c'è il deserto. E allora iniziò a scrivere di biciclette. Da allora ha pubblicato tantissimi libri, perlomeno una mezza dozzina, tra cui una fantastica biografia di Hank Till. Quindi un piccolo Tour d'Italie insieme a Paul Fournel, a cui tutti quanti, molti almeno di quelli che abbiamo incontrato, gli hanno chiesto del prossimo tour che parte dall'Italia, delle sue passioni ciclistiche, e oltre che del suo libro, che è davvero un piccolo capolavoro, un piccolo breviario sentimentale dell'andare in bicicletta. Dico sempre che la bellezza di questo libro è aver trovato le parole che nessuno di noi, dei praticanti ciclisti, riesce a trovare quando si trova in mezzo, che ne so, a pedalare un paesaggio particolare e prova un'emozione appunto indicibile, perché si fa fatica a trovare parole. Ecco, Paul Fournel le trova tutte giuste. Il libro l'hanno tradotto Francesca Cosi e Alessandra Repossi molto bene, e quindi cercatelo. È pieno di storie, è una specie di matriosca, e ve ne leggo una, è quella che chiude il volume, ed è come dire un saluto anche per quello che è stato questo giro, perché racconta la storia di un giovane campione, ed è un augurio per far per dire e auspicarsi che ci sia sempre un nuovo giovane campione che ci fa appassionare di questo sport. Ogni mattina, nei primi anni 60, Emile Demps e Georges van Koningsloo lasciavano la periferia nord di Bruxelles per andare a fare il loro mestiere spalla a spalla. Sapevano da tempo che le loro forze erano alla pari e che entrambi erano in grado di portare a casa dei bei risultati. L'occasione faceva l'uomo ladro. Per prendersi le misure a vicenda avevano già avuto le corse e adesso pedalavano in pace, la ruota anteriore affiancata, perennemente ex aequo, su un'interminabile linea di partenza. In un paese in cui i campioni spuntano come funghi, in cui chi vive dall'altra parte della strada è già il campione di fronte, tutti conoscevano le loro abitudini e tanti ragazzini erano andati a mettersi rispettosamente nella loro scia, senza mai interrompere le loro chiacchiere e senza mai ostacolare il loro treno. Da un po' di tempo un ragazzo lungo come un giorno senza birra, con cosce interminabili, si metteva a ruota dietro di loro. Era un corridorucolo locale che conoscevano bene e che parlava la loro stessa lingua, il che nella zona non è cosa di poca importanza. Nel giro di qualche settimana il ragazzo aveva preso le sue abitudini. Nel giro di poco sarebbe diventato sfrontato. Li affiancava con la sua ampia pedalata pacifica, spalla a spalla, con i veri professionisti, scalpitava. Staccarli era fuori discussione, Demps e Fanconis lo sarebbero scoppiati a ridere e l'avrebbero rimandato a casa. Però niente gli impediva di fare un po' di rue avant. Quando si pedala sulla stessa linea si tratta semplicemente di far avanzare di pochi centimetri la ruota davanti. Niente irrita un corridore più di questo giochetto. Nel giro di pochi minuti e senza avere l'aria avrebbero cambiato la loro velocità e poi si potevano ritrovare ad andare anche a 20 km all'ora più di prima. Fu il trucco usato dal ragazzo per far accelerare i due tipi tosti. Gli riuscì molto bene e più volte. I due compari non sopportavano di cedere come pivelli a bambinate simili. Quando sei un corridore è difficile non correre. Ma il ragazzo aveva un buon intuito. Un mattino in cui si era fermato a bordo strada per fare pipì, i due complici decisero di andarci giù pesante per farlo faticare. Quando il ragazzo ripartì aveva un chilometro di svantaggio. Cominciò a far andare le gambe e riprese terreno. Arrivò a circa 200 metri da loro. Quando si accorsero che stava recuperando, Emile e Georges ci andarono giù ancora più pesanti. Stavolta non c'era niente da ridere. Si diedero il cambio e tirarono come se dovessero giocarsi una vittoria. Il ragazzo non li raggiunse. Ma non perse un centimetro, si prendeva tutto il vento in faccia, era solo e rispettava, con gli occhi socchiusi e un sorriso nascosto, la solitudine di quei due suoi compagni anziani. Demps e van Koningsloo lo ammisero senza problemi. Aveva solo 17 anni, ma pedalava bene il figlio del signore e della signora Merckx. Questa storia, raccontata dalla carovana come mille altre ogni giorno e 2000 ogni sera, val bene la leggenda e il ve l'avevamo detto, ma è ben più di questo. È un aneddoto ripetibile in eterno per scongiurare la mala sorte. Quel famoso ragazzino, che sarà il corridore del XXI secolo, farà entrare tutti gli altri nella storia.